Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Buonasera. No, non ho detto gioia. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Massimiliano. Sì, buongiorno, io sono da farmi un piccolo rimprovero, bene, se posso permettermi. Anche grande. No, no, è piccolo, perché mi pare che avete dimenticato la cosa più importante che è successa da ieri sera con questo nuovo, con l'arrivo del nuovo papa. Cioè, questo nuovo papa ha zittito Giuseppe Cruciani. Sembra, come dire, il vero miracolo, il vero miracolo. È un vero piccolo vabbè, miracolo, vabbè, quindi vabbè. Mi sembra che su questo punto bisognava quantomeno fare una vabbè, Massimiliano, Siccome non siamo come gli altri, no? Perché ne abbiamo sentite, caro Parenzo, di tutti i colori in questi giorni. Io già non ne posso più. Perché i primi giorni sono i peggiori. Perché il Papa è il meglio di tutti. Nei primi due giorni è più straordinario. Rifonderà la Chiesa, distruggerà la Curia, il Papa dei poveri. È sempre il meglio, come dicono a Roma, no? Stai parlando del vicario di Cristo in terra. No, ma lascia perdere, dicono sempre così. Allora io voglio ricordarvi, lo fa qualche giornale. Ma è ovvio, perché non è un criminale. Sì, ma stai tranquillo, mi fai completare. Allora, so che è ovvio, so che è normale, ma noi non siamo normali, non vogliamo essere ovvi. Allora io voglio ricordare qualche frase, perché giustamente qualcuno l'ha detto ieri, Monsignor Paglia da Vespa, per esempio. Sentiamolo prima, poi vi enuncio le frasi, vi dico le frasi importanti da ricordare. Sentite Paglia da Vespa. Con l'attuale presidente, Cristina aveva avuto un forte dissidio riguardo alla legge sul matrimonio di persone dello stesso sesso. Il Papa è un conservatore dell'avvenire, non dell'avvenire giornale. È un conservatore dell'avvenire della famiglia, perché se si distrugge la famiglia, si distrugge la società. E Papa Francesco, prima Cardinal Bergoglio, in questo è unanime con tutta intera la tradizione dottrinale. Il matrimonio gay è la pretesa dell'uomo di distruggere il disegno di Dio. Sono frasi del nuovo Papa. È il segno dell'invidia del diavolo che cerca di distruggere l'immagine di Dio. Il segno dell'invidia del diavolo. Le coppie gay sono 30 volte, poi perché 30? 30 volte più violente di quelle eterosessuali, tendono di più al suicidio e consumano più droghe. Allora, ho sentito delle cose però inaudite ieri, Sentiamo per esempio la Polverini. I commenti dei politici sono straordinari. Ah, la Polverini. Beh, con questo Papa è centrale il tema del lavoro. Ma perché il tema del lavoro dovrebbe essere centrale? Perché? Io credo che questo è un Papa che potrà far tornare centrale il lavoro e il movimento dei lavoratori, come è stato per il pontificato. Per esempio la Sant'Anchè dice che non ho mai visto un papa pregare. Ma di che parliamo, scusate? L'ha detto questa? La Sant'Anchè, senti. E poi l'altra cosa, di vedere un papa che si inginocchia e si mette a pregare, anche questa è un'altra cosa assolutamente diversa da tutti quelli che l'hanno preceduto. Non mai visto. La Bindi crede ancora che ci siano che c'è lo Spirito Santo che illumina i cardinali nel conclave. Questa è però la base del conclave. Sì, però sì, d'accordo, però insomma, dai, diciamo la verità. Poi la realtà è che un uomo politico dovrebbe dire, un cardinale lo può dire, un uomo politico dovrebbe dire, poi scelgono sulla base della visione della Chiesa, delle cordate, degli equilibri. Senti Labini, le previsioni sono state sconvolte dallo Spirito Santo. Le previsioni vengono sempre sconvolte dallo Spirito Santo e dai fratelli cardinali. In un foglio scrivo viva Francesco. Concita De Gregorio, ex direttore dell'Unità, un cambio d'epoca. Perché? Per l'accento, sentite. Guarda, anch'io ho trovato molto suggestivo, a parte questo accento, diciamo, è una notazione banale, ma dopo un papa polacco e uno tedesco, questo accento così dolce, latinoamericano, è un po'... Un cambio d'epoca, no? Ci sono molti segnali che danno il senso di qualcosa. L'accento è importante, importante l'accento, la lingua latina invece che tedesco, eccetera, beh, fondamentali. Però Grillo non ha ancora dichiarato sul Papa, No, non ha ancora dichiarato, potrebbe essere positiva questa cosa, Beh, aspetta, la giornata non è ancora finita, starà consultando compulsivamente il suo computer. Dici, il suo guru, di cui poi ti citerò delle nuove frasi del signor Casaleggio, pensiero, se tu vuoi. 800 24 00 24, ovviamente c'è la politica, ne parliamo con Alessandra Moretti. Buonasera, Partito Democratico, come sta? Buonasera, grazie, sto bene, grazie. È contenta per il Papa? Secondo lei è di sinistra questo Papa? Beh, aspettiamo a vedere, insomma, ogni giudizio adesso è prematuro. Mi sembra un Papa, dicono, riformista, vediamo. Ma è di sinistra? Secondo lei proprio è più vicino a voi che al centrodestra? Ma non credo proprio, penso che sia super partes. Mi è piaciuta soltanto quando lui ha detto, quando ha detto camminerò insieme al popolo, ecco, speriamo sia così. È un compagno, quindi è più vicino, come dire, come sensibilità è più vicino alla sinistra italiana o al centrodestra, come sensibilità, no? Io dico, come dalle prime parole, eccetera. È prematuro, Cruciani, prematuro. Lo valuteremo nel corso del suo lavoro. Però il fatto di chiamarsi Francesco ricorda un po' questa visione pauperista. Questo sì. Magari a favore della decrescita, come i grillini. Ha sentito che nei punti del programma di Grillini c'è la decrescita. Io divento pazzo, la decrescita. L'hai votati! Ma che c'entra? Ma io l'ho votati per mille altri motivi, non per la decrescita. Quel gruppo, quel manipolo di retrogradi, hai votato. La decrescita, io voglio la crescita, sempre la crescita, più crescita. Non la decrescita, io divento pazzo, vogliamo la decrescita. Ma che come si attua? Hai votato Grillo. Oddio, insisti su questa cosa. Allora, voglio chiedere subito una cosa, onorevole Moretti, che è questa: la presidenza della Camera lei la darebbe a un grillino, sì o no? Cioè Franceschini o meglio un grillino? Adesso non mi rispondi in maniera diplomatica. Vabbè, intanto sui nomi direi di non sbilanciarsi, nel senso che c'è una discussione. Io penso che il movimento di Beppe Grillo è il secondo partito in Italia, quindi loro anche per ragioni... No, non sono il primo, perché noi contiamo anche i voti degli italiani all'estero, che valgono molto, e quindi grazie ai quali noi siamo il primo partito in Italia. Ecco, ma lei gliela darebbe la presidenza della Camera? Lei gliela darebbe anche per un atto così, per iniziare una specie di accordo, per tentare un accordo? Gliela consegnerebbe la Camera o no? Credo che se il Movimento 5 Stelle dimostrerà rispetto verso le istituzioni e verso il Parlamento, penso che sia oggetto di una discussione, di un confronto. Vabbè, quello, certo, che sia oggetto di discussione... Devono assumersi le loro responsabilità, insomma, no? Quindi io credo che potrebbe essere una delle ragioni anche di apertura e di grande rispetto del voto degli italiani. Cioè lei sta dicendo, scusi, però non ci faccio la dichiarazione normale, cioè la cosa fondamentale è questa: se noi siamo disposti a votare un grillino alla presidenza della Camera, se però c'è un accordo complessivo anche sul governo, sì o no? Ma io penso proprio di sì, che dovrebbe rientrare, ma guardi, non è però necessario. A me quello che interessa Come non è necessario? È che perché la visione che si deve avere da questo punto di vista è il rispetto, quindi, delle cariche istituzionali. No, d'accordo, però che prescinde, voglio dire, dagli accordi successivi. Ma lei dice di sì. La cosa importante è che loro si assumano la responsabilità, ma che vuol dire la responsabilità? Dell'incarico che vanno, beh, insomma, che rispettino le istituzioni democratiche. Perché devono fare? Perché fino adesso non l'hanno rispettata, non ho capito. Ma fino adesso hanno detto dei no molto chiari e precisi. Beh, non è che significa io non rispettare. Io vorrei che in sede parlamentare iniziassero a dire anche dei sì su delle questioni importanti di cambiamento e di rinnovamento del paese. Ma lei se lo diminuirebbe lo stipendio? Perché oggi Grillo ha detto i parlamentari del PD, Bersani faccia un'operazione di questo tipo, dimezzi lo stipendio dei parlamentari. Lei, per quello che la riguarda, si dimezzerebbe lo stipendio? Noi abbiamo sì o no? Già detto, certo, perché noi abbiamo già detto, rientra nel nostro programma. Beh, no, dimezzare lo stipendio no. Non è, sì, dimezzamento del numero dei parlamentari. Del numero, non dello stipendio. No, Cruciani, dimezzamento del numero dei parlamentari, dimezzamento delle indennità. Non l'ho letto. Il dimezzamento no, riduzione, sì, sì. Non dimezzamento, riduzione. C'è anche il dimezzamento, assolutamente. Comunque sia il dimezzamento. Sono d'accordo. Ah, lei è d'accordo nel fatto che i parlamentari del PD, ma anche in maniera... Quindi 2.500 euro come i grillini. Cioè, non ho capito. Guardi che noi prendiamo già meno del Movimento 5 Stelle, perché diamo i soldi al partito. E quindi prendiamo meno. Prendete, nel complesso, se contando le indennità, lei dice, siccome diamo i soldi al partito, prenderemo di meno. Sì. Adesso bisogna fare dei calcoli. In ogni caso, lei dice, d'accordo Grillo, noi siamo disposti da subito, senza un'altra legge, senza bisogno di una legge, a dimezzarci lo stipendio, così? Io sto dicendo che su questa partita della sobrietà della politica noi siamo in prima linea, sì, quello siamo d'accordo. Disposti a dare dei segnali. Però loro dicono però subito, senza una ragazzi, legge, ha capito? Ragazzi, serve la legge e punto. Ma non è vero, serve perché loro lo fanno senza Parlamento, lo danno i fondi alla banca etica, lo danno a un fondo, loro lo fanno senza bisogno di una legge. Ma scusi un attimo, io le sto dicendo che per noi è già in atto, perché noi diamo già al partito... Ma il partito mica è la banca etica, lei lo sa che... Ma scusi un attimo, loro lo restituiscono a chi questa indennità? Beh, allo Stato, non al partito, allo Stato, non è proprio la stessa cosa. È un ragionamento che va fatto affrontando la riforma della politica. Non subito. Io lo farei anche domani. Sì, d'accordo, senza una legge allora, cioè subito, ridando allo Stato metà dello stipendio, lei lo farebbe? Sì, io lo farei. Se questo rientra in un segnale di sobrietà della politica. Vabbè, quello è chiaro che quello rientra, però una cosa è dire vabbè, ci vuole una riforma generale, una cosa è dire lo facciamo da subito, cioè lei perché non lo fa anche personalmente? Cioè personalmente darò una parte dello stipendio, ridò indietro dei soldi allo Stato, lo farebbe? Ma guardi, io credo che in questa fase, no, dove tutti siamo chiamati a dare degli esempi che la gente ci chiede, certo, ci possono essere degli esempi individuali, ma io penso che potrebbe essere proprio l'intera classe politica a dare buon esempio, no? Vabbè, sono pronta. Perché guardi, il segnale individuale non serve a un tubo, ecco, perché non serve a nulla fare i pauperisti, voglio dire, bisogna che tutta la politica e tutta la classe politica si assuma questo. Però siccome Grillo rivolge a voi un invito, da subito, senza bisogno di una legge, restituite metà dello stipendio. Lei e dice... noi rivolgiamo a Grillo la stessa cosa, dicendo, sei disposto a dimezzare il numero dei parlamentari? Ma sì, ma l'ha già detto che lo vuole fare. No, ma per farlo deve dare la fiducia a un governo e deve dare la possibilità ad un governo di fare queste cose. Cioè, c'è poco da fare, ragazzi. No, la fiducia non la darà mai, l'ha detto. Non si può fare niente. Cioè, ma non è vero, la restituzione dello stipendio si può fare anche subito. Ma scusi, ma le pare che il problema dell'Italia in questo momento sia la restituzione dello stipendio dei parlamentari? Ma insomma, parliamo di cose serie. Allora, l'Italia ha bisogno di lavoro. Per Grillo, sì. Grillo deve mettersi in testa che la gente che l'ha votato vuole lavoro, vuole crescita, vuole sviluppo. Non gliene frega niente dello stipendio dei parlamentari, secondo me non è vero. Ma guardi, gliene frega molto, ma non è la priorità questo. Che io voglia dare un segnale di sobrietà e della politica, di tutta la politica, sì, e non è il caso unico e singolo che serve. Agli italiani interessa la sobrietà della politica, ma prima di tutto il lavoro. E ma il lavoro è una cosa complessa, sai, i provvedimenti, il governo. No, si può fare subito. Ma che guardi, si può fare subito? Ma sono governi 70 che miliardi, 70 miliardi alle imprese, le vogliamo restituire o no? Ma certo, ma che c'entra? Ma scusi, Cruciani, perché dobbiamo rispondere noi? Noi abbiamo fatto una proposta su questo, 70 ma miliardi sono, alle imprese ma che non è chiudono. Ma non è che si può fare domani la restituzione di 70 miliardi, se no l'avrebbero fatto tutti. Si può fare subito, domani si può fare. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via. Siamo qui alle 18:48, caro Parenzo, respiriamo, torniamo in onda. Amen. 800 24 00 24, con noi Alessandra Moretti, Partito Democratico. È arrivata la notizia che il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera è Roberto Fico, napoletano da anni nel Movimento 5 Stelle, eccetera, oh, eccetera. Signor Moretti, lei lo voterebbe? Pronto? Pronto? Lo voterebbe il signor Fico del 5 Stelle? Ma non lo so, non lo conosco, adesso andremo a fare una valutazione complessiva. Dipende, se c'è un accordo per il governo, sì, mi dica la verità subito. Se voi fate un accordo, non è che potete votare così a buffo, no? Giusto? Io credo che si debba fare una valutazione complessiva e valuteremo appunto l'impegno che il Movimento 5 Stelle si assume per fare delle cose. Ma Franceschini si arrabbia, però. Ho capito, no, vabbè, ma questo è corretto. Franceschini si arrabbia. Ma no, ma a parte che voi state dando già dei nomi che non sono... No, Fico è ufficiale, è la candidatura ufficiale del 5 Stelle di pochi istanti fa. Noi Franceschini è il favorito. La nostra la dobbiamo ancora valutare, insomma. Senta, ma Renzi sta facendo dossieraggio su questa vicenda del partito? Ma cioè non penso che stia facendo dossieraggio. Ha dato dei dati, mi pare che tra l'altro non siano neanche... Ecco, il tesoriere ieri mi pare che abbia risposto in maniera abbastanza chiara, insomma, dei dati che non erano come dire rispondenti alla verità. Beh, dunque sta gettando veleno, sta spargendo veleno. Ma non diciamo che stia gettando veleno, sta facendo una sua valutazione sul tema, peraltro, che noi abbiamo già posto, cioè quello del finanziamento pubblico e partiti. Ma lei lo cancellerebbe il finanziamento pubblico? Io credo che vada assolutamente rivisto in un'ottica complessiva di trasparenza, ma non cancellato, perché non sono dell'idea che senza finanziamento pubblico purtroppo la politica la fanno soltanto i ricchi. E quindi, visto che anche in America e negli Stati Uniti stanno rivedendo proprio anche il sistema delle lobby, sono solo i ricchi. Sì, vabbè. Per cui, insomma, è in tutta Senta, Europa. Senta, Bersani, quante percentuali ha di riuscita? Mi dica la verità. Cioè, poche, siamo... Ma guardi, io credo che la situazione è molto, molto difficile, che richiede grande senso di responsabilità. Ma c'è un altro nome? No, non c'è un altro nome. Dopo Bersani, che c'è? Dopo Bersani? Se fallisce Bersani, che succede? Insomma, la palla passa al No, ma che c'è? Un altro nome vostro oppure un governo di istituzionale? Mi sembra il governo istituzionale, no? Ma non lo so, questo lo dovrà decidere il Presidente della Repubblica, ha sentito il Partito Democratico e le altre forze parlamentari, ovviamente. Mi sembra sofferente in questi giorni, signor Bersani, lei che è stata così vicina, mi sembra un po'... No, è un po' giù, è un po' giù questa vicenda. Beh, insomma, siamo... È un po' scioccato, che, insomma, non è che è stata una passeggiata, no? Queste due ultime settimane. Come lo definisci? Un po' scioccato, Un po'... Su di lui sono pesanti responsabilità e sente il peso di scelte molto molto difficili, ma il partito è con lui, c'è una nuova classe dirigente. Il partito è con lui, partito è con lui, abbiamo avuto una direzione nazionale molto intensa. Bersani annuncia che domani il PD voterà scheda bianca, accordo in alto mare, dunque ancora bisogna vedere quello che succede sul Presidente della Camera. Io devo dire la verità, a me non me ne frega niente, Parenzo, ma che ce frega del Presidente della Camera? Ma ce ne frega niente, ma che è importante, ma la gente che gliene frega dei Presidenti della Camera? Ma è solo la terza carica, ma dello Stato, capisco su... che ormai tu vivi su Second Life. Alla gente interessa però... il governo, ragazzi, alla gente interessa e l'opinione pubblica vuole un governo di questo paese. E dunque Grillo deve adeguarsi all'opinione pubblica, i suoi chiedono il governo, chiedono di entrare, secondo lei, Grillini? Cioè gli elettori di Grillo vogliono il governo col PD, secondo lei? Io penso proprio di sì, la maggioranza di quelli vuole un governo con il PD. Con il PD. Senta, perché non l'hanno fatta pontiere? Perché non è stata scelta come pontiere con il 5 Stelle? Si faceva il suo nome, come hanno scelto altre persone? Ma non so, ma questo sta nella logica anche di... non ho assolutamente... Ma a parte che non si faceva il mio nome assolutamente arbitrariamente, perché io... Non credo di avere delle doti e delle qualità in relazione anche a non questo. Sente pontiere, non si sente molto pontiere. Mi sento un pontiere. No. Più pasdarano, sono più kamikaze, diciamo, che pontiere. Beh, insomma, ecco, distruggo. Ogni tanto sì. Sono più kamikaze che pontiere, queste erano le male. Sento una cosa, ma... però c'è una questione che mi... L'arresto di Berlusconi, no? Cioè, se arrivasse... Adesso lei è alla Camera, però comunque Berlusconi fino a poco tempo fa era alla Camera. Se arrivasse una richiesta di arresto per Berlusconi, lei cosa farebbe? Ma intanto deve arrivare. Vabbè, non mi pare. Adesso si fanno tutte le ipotesi. Sì. Allora, intanto deve arrivare. Arrivasse lei che cosa farebbe? Bisogna valutare molto bene le carte, perché è giusto che su queste cose qui, siccome si parla di arresto. Però anche per altri, voi avete sempre votato sì quando i magistrati l'hanno chiesto, più o meno. Certo, perché noi riteniamo che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, che quindi non debbano esserci, trattamenti differenziati. E dunque anche lei voterebbe per l'arresto di Berlusconi? Se una volta valutate le carte dovessimo andare a confermare questo, penso di sì. In linea di massima lo voterebbe. Senza pregiudizio, ma con grande serenità e obiettività. D'accordo, però siccome voi avete sempre detto, se i magistrati chiedono l'arresto e se non c'è fumus persecutionis, votate sì all'arresto tranquillamente, dunque anche per Berlusconi lei lo voterebbe. Tranquillamente no, sa, perché è una questione di... Cioè, secondo me c'è una sofferenza, perché l'arresto è l'arresto, torno a ribadire, se non si fa niente serenamente a cuor leggero. Ripeto, una grande attenzione e una lettura approfondita delle carte di quanti magistrati sostengono. Questo è scontato, però una volta ma che arriva... che la galera è più vicina per il presidente Berlusconi o no? No, io non credo che sia lei più vicina, anche perché non penso che ci sia neanche l'età, guardi, per mandarlo in galera. Cioè non l'arresteranno, diciamo la verità, lei non si augura che Berlusconi venga arrestato. Ma io non mi auguro che nessuno venga arrestato. Però Berlusconi in particolare non si augura che venga arrestato, anche per la serenità della vita politica, no? Io dico che in questo momento, per la serenità della vita politica... Ebbene che il Parlamento dia dei segnali di responsabilità e prima di tutto lo facciano i parlamentari, però andando a manifestare davanti al Tribunale di Milano, hanno fatto una manifestazione eversiva, perché sostanzialmente è un pezzo dello Stato contro un altro pezzo. Però lei non si augura per la serenità delle istituzioni che Berlusconi venga arrestato? Io non me lo auguro e mi auguro che non ci siano i presupposti per l'arresto, questo mi auguro. Perché altrimenti sarebbe il caos. Se Berlusconi ci fosse una richiesta di arresto di Berlusconi, diciamo la verità, per la vicenda di Napoli, per esempio, di cui si parla, ci fosse una richiesta di arresto, sarebbe il caos politico. Ma il caos politico più che altro perché Silvio Berlusconi rappresenta l'unico leader del centrodestra, e quindi credo che per il centrodestra sarebbe un problema. Ma politicamente sarebbe un disastro anche per l'Italia, per la tenuta, ma guardi, no? Tenga conto che Silvio Berlusconi è stato più volte Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio assolutamente non è un'immagine, ma non è stata un'immagine neanche bella di un Parlamento che ha votato per la nipote di Mubarak, di Mubarak, che tutte le leggi ad persona, neanche quelle sono. Ma bisogna diminuirli, per esempio, bisogna diminuirli i dipendenti del partito, secondo lei, i dipendenti del Partito Democratico? Bisogna fare una cura dimagrante nel partito. Ma non parliamo solo del Partito Democratico, parliamo in generale del sistema. No, ma però il Partito Democratico, che ha più alto numero di dipendenti, va diminuito, va dimagrito o no? Ma io penso che in un'ottica di razionalizzazione, anche di crisi economica pesante, io penso che vada rivisto con grande prudenza, perché guardate che ci sono dei dipendenti lì dentro, c'è gente, no, c'è famiglie. Senta, quindi... una sola risposta, ma Renzi è il futuro del Partito Democratico? 10 secondi, è il futuro? È sì una parte di futuro. Ma come è una parte di futuro? Insomma, non ci sarà mica solo Renzi. Ma lei Renzi, è democristiana. Tra Renzi e Barca, chi voterebbe per la segreteria? Metti che ci fosse Renzi o Barca, chi voterebbe? Nessuno. Ma Renzi intanto non si candida alla segreteria. Fratelli e sorelle, buonasera. Che diceva della Chiesa Grillo? Fino adesso non ha detto nulla su Papa Francesco ed è stato l'unico, meno male, perché la cosa più insopportabile è la banalità, gli auguri dei politici, in particolare al Papa, perché una persona comune fa un augurio così, no, invece c'è la dichiarazione dei politici, che è una cosa che non si può sentire, soprattutto quando si dicono delle cose banali, patetiche, ridicole. Per esempio c'è una nostra amica, l'onorevole Comi, europarlamentare del PDL. Sì, che ha detto? Mi sono ritagliato una cosa. Ottimo. Aspetta, ha esaudito un mio desiderio. Papa Francesco, una dichiarazione ufficiale. Sì, sì. Il Papa ha esaudito un mio desiderio. Lo sai quale sarebbe questo desiderio? Quale sarebbe? Di chiamarsi Francesco. Di chiamarsi Francesco. Hai capito? Portatela via. Cioè, ma se uno perché non sta zitto? Poi ho scovato. C'è il cosa... silenzio ogni tanto, è fondamentale, no? No, ma c'è il silenzio è oro, dicevano le nonnine. Ma tu vuoi sapere, perché io voglio ogni giorno regalarti una penna del tuo leader Casaleggio. Signor Casaleggio. Dimmi qualcosa di Casaleggio. Allora senti cosa dici, signor Casaleggio. Tuo leader un corno. Tuo leader un corno. Hai votato, stai zitto ora. No, allora, mi senti, non sia seccarne. Allora. Cioè, scusa, non ho sentito. Non mi secchi, non stia a seccarmi. Beh, te lo dice pure la signora Assunta, stai zitto, stai calmo, dai. Allora, dice Casaleggio, una volta ho incontrato un mio amico architetto su Second Life, un mondo digitale creato in rete. Sì. Che avevo commissionato un palazzo dell'antica Grecia virtuale definito nei più piccoli particolari. Ci siamo dati appuntamento su Second Life, su quest'isola. Vabbè. Era mattina e stava sorgendo il sole. E allora? Ci siamo salutati attraverso le nostre due identità digitali e abbiamo ispezionato il palazzo trovando due bellissimi affreschi. Casaleggio! Vabbè, ha fatto un'esperienza su Second Life, qual è il problema? Ma dico, ma tu di che, ma di che cosa? Ma perché non ti arrabbi? Ma in mano a chi siamo finiti? A chi siamo finiti? In mano a chi? Aspetta un attimo, uno Papa. Che si trova un palazzo greco su Second Life? Ma di che parliamo? Le frasi storiche di Papa Francesco. Le frasi storiche, quelle che gli altri non vi racconteranno. Cioè, solo in pochi vi racconteranno, ovviamente. Quelli che non sono iscritti al politicamente corretto, quelli che non sono iscritti alla riverenza. Noi non siamo iscritti a questo partito. Allora, sui gay abbiamo già detto, ripetiamo, i matrimoni gay, un segno del diavolo e un attacco devastante ai piani di Dio. Trattasi di un papa nel, come dire, no, conservatore, cioè non è la rivoluzione, è un papa come gli altri da questo punto di vista. Beh, la rivoluzione è un papa. Il resto è un papa, il resto è da vedere. Aspetta, un'altra cosa, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra molto interessante, molto interessante. Si parlava della questione delle presidenziali argentine. Le donne sono naturalmente inadatte per compiti politici. Le donne, ripeto, sono naturalmente inadatte per compiti politici. L'ordine naturale e i fatti ci insegnano che l'uomo è un uomo politico per eccellenza. Le scritture ci mostrano, le scritture, che le donne da sempre supportano il pensare e il creare dell'uomo. Ma niente più di questo. Supportano il pensare e il creare dell'uomo. Amici miei! Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Papa Francesco celebra la prima messa nella Cappella Sistina. Camminare, edificare, confessare portando la croce. Questo è il cammino che la Chiesa ha davanti. Un Papa umile che parla braccio in italiano, non siede sul trono e paga il conto. Dovrà affrontare nuove sfide, la crisi delle vocazioni, il diffondersi degli evangelici, l'omosessualità. Napolitano torna a parlare del suo incontro col PDL. Nessuno scudo offerto a Berlusconi. La manifestazione di Milano fu di una gravità senza precedenti. Domani la prima seduta delle Camere. Grillo per la presidenza, voteremo i nostri candidati. PDL da Berlusconi per decidere la strategia. I democratici vogliamo scelte condivise, il dialogo resta aperto fino all'ultimo. Bersani e Grillo, assurdo dire che l'Italia è già fuori dall'euro. Vertice al Ministero dello Sviluppo sul futuro della Bridgestone di Bari, l'azienda disposta a trattare, urla di gioia tra gli operai arrivati a Roma. Sequestrati 46 milioni di euro tra beni e immobili allo holding del lusso Bulgari per evasione fiscale, dal 2006 nascosti al fisco 3 miliardi. Le Iene avevano inseguito Bergoglio prima del conclave, il giorno prima del conclave, per la storia della pedofilia, naturalmente. Sentite come aveva risposto il futuro Papa. Senta, il cardinale Calcagno è stato accusato di aver coperto i crimini di un prete pedofilo. Qual è la posizione della Chiesa, visto che parteciperà al conclave? Mi lasci stare, non do risposte. Perché no? La Chiesa non ne deve dare le risposte. Perché noi dobbiamo avere un certo riservo. Ma si parla di bambini abusati, scusi. Scusatemi tanto, ma dove avete imparato a spingere le persone in quel modo lì? Almeno un po' di educazione. Si parla di bambini abusati. Io passo per la strada e voi mi spingete in questo modo. Non è onesto. Si parla di bambini... Io ho dei doveri di non rispondere, grazie. Ma perché no? Perché no? Scusi. Beh certo, quelli di Iene non è che vanno lì a fare l'intervista. Scusi, può parlare? Beh no, vanno lì, insomma, incalzano, no? Sì, no, ma sono insistenti, fanno il mestiere loro, diciamo la verità. Poi, cioè, eccezionali, poi non sapevano che sarebbe diventato Papa, altrimenti sarebbero stati ancora più ficcanti, forse. Beh, sì, certo. Ma come facevano a sapere, scusa? No? Come facevano a sapere, scusa? No, ma lo avrebbero seguito fino al proprio fino alla porta di Pietro, no? Fino al sacro soglio. Lodato Gesù Cristo, sempre. No, scusi, questa è la Padre Amor, però. Questa è la Padre Amor. Ma perché mi mandi Padre Amor? Io ti assicuro, non sono superstizioso, però. Il signore parlava del diavolo. Non faccio il cretino. Beh, intanto mi dispiace, l'ammirante, dover dare questa notizia, perché sono settimane che missing il punto, non ho più notizie. Ah, non ci sono notizie? No, questo mi preoccupa molto e mi dispiace, perché evidentemente. Fumata nera per il busto di Almirante, ma ci sono più segnalazioni neanche, cioè non mi arrivano. Beh, cari ascoltatori, segnalateci se c'è qualcosa di nuovo in giro. Cerchiamo disperatamente il busto di Almirante. Uno mi ha detto che potrebbe essere a Cascina Gobba, però possiamo. Cascina Gobba qui a Milano, vicino a Milano. Sì, è sulla linea verde, sulla metropolitana, a Cascina Gobba, però mi sembra strano una segnalazione farlocca. Di beh, sicuramente. A cosa se ne fa uno? Beh, questo è vero, però. Cosa se ne fa? Beh, sì, il busto dell'ammirante potrebbe valere qualcosa. Ma infatti è una roba che, cioè, infatti anche a me mi interessa. Ma tu niente. Ti rendi conto che siamo appesi oggi a una dichiarazione dell'ex fidanzatina di Bergoglio, la quale dice Bergoglio mi avrebbe detto se non ti sposo mi faccio prete. La frase del giorno. Ti rendi conto o no? Però sono quelle belle coincidenze del destino. Noi americani diciamo sliding doors, noi inglesi. Vabbè, noi, ma fammi sentire, anglofili. Non mi rompere le scatole, cioè, fammi è sentire. Una questione di coincidenza. Senti, sentiamo Nicola dalla provincia di Piacenza, che è meglio. No. Nicola dalla provincia di Piacenza. Voglio sentire gli ascoltatori, su, gli ascoltatori. Cosa avresti fatto? Ma che ne so, lo spazzino, con tutto rispetto. Nicola dalla provincia di Piacenza. Ah, ecco. Pronto? Sì, Nicola, dica. Sì, no, io ieri incazzato nero dopo 1000 chilometri di macchina e devo sentire il gabbiano che si poggia sul camino del conclave. Il gabbiano. Perché lei è contro i gabbiani, non ho capito. È la storia. Le clarisse che non hanno internet e ricevono la telefonata del telefono fisso. E che cosa vuole che le dica? È la vita, è la storia che il passa. Il gabbiano che il gabbiano, il comignolo. Cioè lei cosa voleva sentire, scusi? Chi? Il vostro chi, sì. Lo so, Nicola. Quello volevo sentire. No, Nicola, la riflessione è questa, caro Nicola. Come mai l'ottima rete ha deciso di non affidare a due noti vaticanisti come sono Cruciani e il signor Parenzo la diretta di ieri? Questa è una domanda. Perché avremmo trasformato questa vicenda in un grande sabba, una grandissima occasione di un grande baccanale. Avremmo trasformato dalla fumata bianca e poi sarebbe stato un grande baccanale, un grande sabba con interventi pazzeschi. Avremmo trasformato tutto, ma chi se ne frega. Vittorio da Napoli, buonasera, grazie Nicola. Vittorio, non c'è. Luigi da Cosenza, buonasera. Vada diretto, vada, allora, veloce, diretto, rapido. Solo fare una riflessione anche se no, se è troppo una riflessione. No, vabbè, no, non... Ma scherzo, scusi, vada avanti. Dopo anche aver sentito l'onorevole Moretti, sì, sul fatto che è disposta a decurtarsi lo stipendio. Sì, disposta se c'è una riforma complessiva, se c'è una legge, sì, vabbè, ma perché i gesti individuali non vanno bene, eccetera, eccetera. Certo, ma io dopo aver sentito sia l'onorevole Fassina che il PD, che ha detto che sono solo 180 i dipendenti del... 198 veramente, per l'esattezza sono. Sono 340 deputati, metà stipendio lo portano lì e possono rinunciare al finanziamento del partito, non licenziano nessuno. Non ho capito, scusi. Prendono il loro mezzo stipendio e lo devolgono agli stessi dipendenti del PD. Ma lo fanno, lo fanno, perché una parte dello stipendio va a finire al partito, con cui il partito pagherà anche gli stipendi dei dipendenti. Allora io non riesco ma a è la stessa partita di giro, ma non abbiamo capito bene. Sono sempre soldi nostri, sono tutti soldi nostri, anche i suoi, che hanno il portafoglio. Bisogna tirare giù la Clair dal finanziamento pubblico, colloca la Clair così, tirare giù, chiudere i rubinetti. Radio demagogia. E poi, ma che demagogia? E poi si rifà un'altra... No, ma poi si ripensa un'altra. Innanzitutto togliamo tutto. Poi si ripensa un altro sistema. Sì, poi Second Life. Votiamo ma che Second Life? Dai, su. Claudio da Milano, buonasera, Claudio. Buonasera. Vada. Lei è il famoso prostituto, come si è già autodefinito, di La Zanzara, no? Prostituto tutto? Della Zanzara? Questo non l'avevo mai forgiato. No, l'ha detto lei, che lei è un prostituto che cura lo share. Prostituto che cura lo share, certo, l'ascolto lo guardo, non c'è dubbio. Beh, però prostituto adesso io ho avuto un orgasmo vero quando ieri praticamente su Twitter ho letto che La Zanzara praticamente veniva lasciata dalla sua conduzione e di quello del demente che le fa da spalla. Ma scusi, ma lei scusi caro Claudio, ma lei l'ha preso su Twitter, dunque non stava seguendo? No, l'ho letto stamattina, ho detto stamattina ero in sintonia con voi, ero in sintonia con voi. Ma poi, cioè, ha avuto un orgasmo, banale, cioè è andato in bagno e ha fatto qualche cosa? No, siccome sono banale, ho cominciato a guardare la televisione in attesa, come milioni di persone, quella famosa, banalissima fumata bianca. No, la fumata bianca già c'era stata, veramente. No, non c'era ancora stata. Ah, ho sperato veramente di non sentire più la sua banalità. E perché ha chiamato, scusi? Quel signor, perché ha chiamato? Che è il Parenzo. Perché ha chiamato? L'uomo che tiene il piede in due scarpe, in la 7 e anche il Sole 24. No, due scarpe, lavora, scusi. So che per lei magari è una parola grossa, per lei è una parola un po' complicata. Non, ma il signore lavora, il signore qui accanto lavora. Ha capito? Lui lavora col formaggiano, lui compra le dà fastidio, è un coglione. Fastidio sentire che lei legge le banalità sul cardinale Bertoglio, spacciandole per notizie, sono frasi che ha detto o no? Non è vero, non sono cazzate, sono le frasi che ha detto sui gay, sono vere o no? Sono tutte vere, ma lei... E allora sono vere, basta, se sono vere stia zitto, no? Ho la borsa, torno subito, resti lì. No, cose mai sentite, che nessuno in questi... Ma cosa sta dicendo? La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è... Le teorie di Buttiglione: ci sono più pedofili in famiglia che nella chiesa. Sentite, più pedofili in famiglia che nella chiesa. I casi di pedofilia paragonati al numero dei preti dicono che probabilmente di tutte le categorie sociali i preti sono una di quelle in cui la pedofilia incide di meno, perché la grande parte dei pedofili purtroppo sono padri di famiglia. Vogliamo dire le cose come stanno? Ecco. Beh sì, è normale, perché i numeri dicono questo, ma è scontato che sia così. Bisogna vedere i numeri comparati tra i preti, i casi di pedofilia nei preti e quelli della popolazione mondiale, cioè, non so lì dove andiamo a parare. È già un passo in avanti il fatto che il professore ammetta che ci sono dei casi di pedofilia, visto che fino a poco tempo fa tutto era tenuto sotto traccia, diciamo, quindi c'è un passo avanti, ecco. Spegni la luce, passa dalla TV. Ai, ai, ti ha beccato. Ai, ai, ti ha beccato. A proposito dell'arresto di Berlusconi, Rotondi, Fanfani, sentite. Passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. E balli su twist, e balli su twist. Reotti lo chiamavano Belzebù, Fanfani lo chiamavano il nano maledetto, come oggi chiamano Berlusconi. Quindi allora, tutto torna alla fine. Ti ha beccato. Allora, ovviamente ci può essere stato un errore, perché prima abbiamo mandato in onda un filmato delle Iene, molti mi segnalano che è il cardinal Poletto, il cardinale di Torino. Io su un foglio ho scritto, mi è stato scritto cardinale, ovviamente anche un errore nostro, Papa Francesco Iene. Vabbè, Francesco Iene. Sul tema, quindi. Pare che non sia lui, ma invece sia il cardinal Poletto di Torino, ovviamente. Ci scusiamo. Succede, eravamo con Claudio. Sì, sono io. Vada. No, niente, io adesso ho ripreso il controllo e mi scuso se eventualmente gli eccessi verbali che ho usato nei non suoi confronti, tanto sappiamo, anche se lei si era autodefinito un prostituto della RAI. Non ho capito, che dicevi, Parenzo? No, non si preoccupi di scusarsi, tanto sappiamo le sue condizioni. No, mi scuso, poi tale Parenzo sappiamo? Non lo sopporto sappiamo? Veramente più. Per le sue banalità assolute, continue, anche quando è stato in trasmissione con lei, quando c'era quella specie di gioppino con il turbante dei 5 Stelle, cioè una figura pietosa, almeno lei ha una posizione chiara, dice io sono grillino perché ho voluto fare un voto di rottura, sì. Ma quell'altro invece si gira intorno a questa sinistra asfittica, una cosa insopportabile, sì. Ogni tanto dà contro Casaleggio, ogni tanto dice che Casaleggio invece è un canzo, ogni tanto mai Grillo spacca... Cioè, no, ma capisco però, che ha delle turbe pesanti, ma no, il sistema sanitario nazionale l'aiuterà. Il problema di Tevi Parenzo è che effettivamente non è soltanto la laurea che gli manca, gli manca molto altro, gli manca la capacità di fare il giornalista vero, d'inchiesta. Grazie, figuracce. Anche alla Bridgestone ha fatto una figura da coglione, era lì che parlava sistema del Trieste, quella protezione dei bambini, Emiliano gli dava le dritte, lui come un cretino pallido con queste occhiaie, mamma mia che tristezza, veramente. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. E siamo qui, Lillo, provincia di Salerno, buonasera. Lillo? Sì, pronto? Vada. Sì, salve, sono Lillo Cerami di Petrolia Sottana, provincia di Palermo. Non c'è bisogno di... Ah, va bene. Allora, volevo intervenire per quanto riguarda la manifestazione del PDL al Palazzo di Giustizia. Vorrei capire, ma c'era pure l'onorevole Schifani, nonché presidente del Senato? Dico, sarebbe ancora più grave. Ma quello che vorrei dire naturalmente è che se tutti possiamo andare a manifestare dentro il Palazzo di Giustizia, ci possono andare noi, che ne so, disoccupati, o ci possono andare ex carcerati oppure arrestati. Dico, ma come si fa a non sbarrare la strada per entrare al Palazzo di Giustizia? Perché Palazzo di Giustizia può entrare chiunque, evidentemente se ci fosse stata la forza pubblica sarebbe successo un parapiglia, dunque immagino che anche la forza pubblica abbia detto vabbè, non possiamo andare lì davanti, cioè è normale questo caso, meno male che non sono andati i poliziotti, altrimenti succedeva un inferno. Sì, ma secondo me non è una... Cosa dovevano fare, scusi, sbarrare l'ingresso? Sì, sbarrare l'ingresso secondo me. Sbarrare l'ingresso non si può manifestare dentro il Palazzo di Giustizia. Un'altra cosa, l'uveite, che Berlusconi in pratica ha detto che l'uveite non è una patologia in cui si dovrebbe ricoverare, quindi è un ricovero improprio, ma naturalmente quello che più mi ha diciamo dato in negativo è il presidente Napolitano. Napolitano sicuramente dovrebbe bacchettare queste del PDL e non riceverli completamente, perché non si può ricevere sta gente. Sì, ma lui... ho capito, ma Lillo, ma come fa Napolitano a non ricevere Berlusconi? Berlusconi Alfano, quello gli chiede un incontro, è vero che gli aveva detto che la manifestazione non si sarebbe fatta e poi invece si è fatta, ma come si fa? Cioè, è impossibile, ha capito? Cioè, che cosa doveva fare? Cioè, quello rappresenta un terzo del paese, comunque ha preso il 29% con la coalizione, che fa? Non riceve il capo di un partito importante? Però poi ha detto delle cose che sicuramente no, non ha detto niente, infatti oggi ha smentito Repubblica, non ha garantito nessuno scudo a Berlusconi. Pronto? Sì, dica. Un'altra cosa volevo dire, ma quanto ci manca Antonio Di Pietro in difesa dei magistrati? No, veramente è scomparso politicamente Di Pietro, per cui non so se a lei manca... Il nuovo Antonio Di Pietro, ma a me manca tantissimo. È Grillo il nuovo Antonio Di Pietro, come scrive Facci oggi. Grazie. Sentite Sgarbi contro PDL e Grillo. Sgarbi contro PDL e Grillo. Fenomenale, eh? Sentitelo, ci siamo anche noi dentro, eh? La settimana scorsa, ma va risentito, sì, va risentito assolutamente, contro PDL e Grillo, sentite. Emilio Colombo ed è Colombo. Noto drogato? Sì, no, lui ha, no, questo qua ha detto un tale Di Maio. No, drogato Colombo, dico, sai che è stato. Quindi questo però è un problema talmente modesto che sai, i grillini hanno un problema fondamentale. Qual è? Che non sono eletti, sì, ma sono degli atomi del corpo di Grillo, che è un corpo santo, sì, che è l'unico che è stato eletto e non è in Parlamento, perché il voto è andato a lui. Quindi siamo di fronte a una violazione della Costituzione assolutamente straordinaria, cioè nessuno ha votato il parlamentare che è in Parlamento. Stupendo, stupendo. Salvo per Bersani, sì, che è un partito, sia per Berlusconi che per Monti che per Grillo, sì, il voto è andato alla figura del leader e nessuno... ed è stato distribuito su dei personaggi che nessuno sa chi sono. Non hai il deputato del collegio, non sai chi sta... nella, cioè, questi che sono? Che sono questi qua? Atomi, persone inesistenti? Non so. Sì, infatti, lui ha detto per tutti, anche per quelli di Berlusconi. Mica l'ha detto per tutti, solo per quelli. Ancora peggio. Cioè? Berlusconi ha fatto leggere Galan, però c'è peggio di Galan. Cioè, fare leggere Galan è come mettere un maiale al centro di una chiesa, insomma, è una cosa invereconda proprio. Ma come? Tipo umano. Non parliamo mai, tutti così. Per esempio, chi ha fatto leggere voi? Ha fatto leggere la Santelli, ha fatto leggere la Brambilla. La Brambilla in Emilia Romagna. Io avrei dovuto votare la Brambilla. Sì, cazzi, sì, nel culo. Ma quale, come fai? Ti viene in mente di votare la Brambilla in Emilia Romagna? Ma come mai la candidata? Ha ragione. Perché hai votato tu, Vittorio? Ma perché? Dei voti profondamente antidemocratici. Ma ha ragione Feltri quando dice che era pieno di mignotte la lista del PDL. Ma le mignotte, guarda, l'essere mignotte, tutto sommato, è l'elemento meno grave. Purché sia una mignotta del territorio, la mignotta di casa tua, non la mignotta di un'altra regione. Voglio votare la mignotta, non è che voto uno che è nato in Calabria in una lista in cui non so neanche... Ma che perché c'è, ha messo la Brambilla? Perché ha ricandidato la Brambilla? Ah, non ho idea. E che ne so? A tutti, tutti quelli che ha ricandidato sono penosi, cioè le liste di Berlusconi sono una delle cose più inqualificabili che si possano vedere. Quelle di Grillo sono uguali, con la differenza che non sappiamo chi sono, quindi nel non saperlo c'è da sperare che possano essere perfino meglio. Atomi, quindi, dici tu, atomi, fatto atomi. Che tu non hai votato nessuno, hai votato tre persone. Ma questi che sono polvere, sono polvere. Uno dei fuori non c'è e l'altro non è eleggibile perché è già senatore. Ma che roba è? Traffico. Sono dei fatti, dei delinquenti, dei ladri di democrazia. La mia donna in sci per pala riposare bel tranquillo nella mia stanza, a un delet per fa l'amore. Siamo qui 800 24 00 24, andiamo a Genova. Piero, sì, buonasera. Dica. Niente, so per dire, ma c'era proprio bisogno di aprire in quella maniera lì stasera, voglio cioè dire. Con che cosa, ci scusi? Ma ci sono migliaia di persone, tra cui questo povero pellegrino che vi sta telefonando, sì, che aspettava con una certa ansia, per carità, magari faccio parte di una realtà un po' lontana da questo. No, ma con di, che cosa? Non ho capito, con che cosa abbiamo aperto? Ma me la sto prendendo col, come avete fatto l'apertura con le, col discorso delle Iene, che oltretutto vi siete anche sbagliati, che non c'entra niente. Ma quello non c'entra niente, quello non abbiamo aperto non in quel modo. Ma quello non c'entra niente, non sapete neanche chi è, cosa che invece io conosco perfettamente. Sì, ma lei ha ragione, ci siamo sbagliati, ci siamo sbagliati, ma bellissimo. Voglio dire, ma cioè, un pochino andate a ferire anche i vostri, voglio dire. Ma non c'entra niente, ci siamo sbagliati, punto. Ho capito, ci siamo sbagliati, punto, cazzo, ma non perdete neanche un'occasione. Poi quel pinguino che c'ha lì vicino, che non gli sembra neanche vero dire sempre cazzo la sua, che se la evitasse farebbe anche bene, perché non sa di cosa parla. Almeno lei vuole tenere alto lo share, lui glielo abbassa, quindi veda un po' ma lei. Ma sarebbe comunque, il pinguino, era... scusi? Il pinguino è lei, guardi, è lei. Ma perché pinguino? A me certe volte... Ma per il semplice motivo che dice sì sì, ma c'ha ragione questa cosa, ma cosa c'entra la pedofilia col fatto che è stato eletto un papa per la prima volta un gesuita? Ma infatti non c'entra nulla la pedofilia. Non c'entra nulla. Infatti non c'entra nulla, nessuno ha mai nominato la pedofilia con riguardo a Bergoglio, no, mai. Non ha nominato in questo caso particolare. Stasera avete parlato di tutte queste cose, no, non abbiamo mai parlato di pedofilia, mai, mai. Per riguardo a questo papa, abbiamo parlato di alcune frasi che ha detto sugli omosessuali. Non sto parlando del Papa, sto parlando semplicemente, è avvenuto un fatto unico, poi può far ridere il fatto che sono 2000 anni che usano il caminetto, ma tu quello che vuole, ma, cioè, ma che cosa c'entra? E guardi, non sono da portare via con la camicia di forza, le assicuro, perché sono ma una no, persona ma normale va usato che lavora in altri casi. E chi è ferito semplicemente nei sentimenti da, del qualunquismo, che uno si può evitare. Io mi diverto quando fate sentire Sgarbi, quando parlate dei politici, fate bene a massacrarli, ma cosa c'entra il Papa? Ma questo qui ha fatto, ma non abbiamo massacrato nessuno, ma chi ha massacrato qualcuno? Ma scusi, ma non si possono... Ma non si possono semplicemente dire delle cose su quello, su, su alcune frasi pronunciate dal Papa sugli omosessuali? Cioè si possono dire queste parole, sì o no? Ma di tutto quello che si può dire su un Papa appena eletto, io capisco no, il ma... tipo di trasmissione, tant'è vero che la sento, ma cosa c'entra il Papa lì dentro, voglio dire, che cosa c'entra? Ma come che c'entra, scusi? Scusi, lei parla, di, lei parla, voglio dire, quando parla di omosessuali, c'è i suoi pensieri, uno può essere d'accordo, non essere d'accordo, ma che cosa c'entra aprire la trasmissione con questi pinguini che hanno firmato, che hanno fermato questo qui per strada? Ma quello non c'entra niente, con... l'ho già detto non che non c'entra nulla, lui. Non c'entra nulla, tant'è che non era lui, era un altro, punto, c'è stato un errore, avevo scritto una cosa su un foglio di carta, c'era stato... mi hanno scritto una cosa su un foglio di carta, come vuole che glielo dica, chiedo umilmente scusa, no, ma no, che no, devo basta, fare? Ma non c'è bisogno di scusa, non c'è no, niente, no, c'è bisogno, c'è bisogno. Il sentimento che sentono persone, ripeto, che sentono la vostra trasmissione e si divertono anche, ripeto, quando si parla guardi, di certe io cose. Ho semplicemente, ma... per, a proposito dei gay, ho semplicemente ripetuto alcune frasi che il Papa ha pronunciato. Se vuole gli ripeto, il matrimonio omosessuale è un segno del diavolo, ma non è strano rispetto ad altri papi, rispetto ad un religioso come... Nulla come, di nuovo. Nulla di nuovo, semplicemente puntualizzare, cioè non è il papa rivoluzionario riguardo a questo argomento, se lo sarà magari in altre cose. Sto dicendo che alcune frasi mi sembrava il caso di ripeterle, il matrimonio omosessuale è un segno del diavolo e un attacco devastante ai piani di Dio. Cioè, questo ha detto, punto. Poi devo dire, secondo lei ha ragione magari, cioè, non lo so. Cioè. No, io osservo solo, ripeto, siccome combinazione di questo papa è poco conosciuto, è un qualcosa di nuovo, perché quel marcio che voi tirate fuori lo conoscono tutti, chi conosce. Ma il chiesa, marcio di che? Crede. Il marcio di che il cosa? Marcio il marcio di cosa? Il marcio che c'è nella Chiesa lo sappiamo benissimo, abbiamo perso anche il Papa precedente, perché evidente ci sono delle cose e delle nostre intestine che avevano bisogno di una situazione come quella che si è verificata. Mi piacerebbe molto di più un'analisi, magari non oggi, che vada a mirare a quello. Hanno pescato combinazione, un cardinale, ripeto, che ha vissuto, una persona umilissima, per la prima volta gesuita, non è mai successo nella storia, e probabilmente veramente farà del bene alla Chiesa, perché ne aveva un bisogno incredibile di sanare certe situazioni e soprattutto di andare nella vabbè, direzione. Però guardi, a me questi discorsi... Quello. Vabbè, d'accordo, va benissimo. Questi discorsi sono noiosi. Vincenzo da Catania, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione. La chiamo per dirle per dire francamente, non capisco come ci stia tanto preoccupando del Papa o quant'altro, quando c'è una questione, secondo me, aperta, che ha una soluzione, a cui non una soluzione, un problema che è stato creato, che è quello dei Marò in India. Cioè, non un paese, una volta che perde la sua credibilità a livello internazionale, lasciamo stare che gli indiani di India, insomma, è un continente gigantesco, è veramente la valenza di questo paese, di questa nazione per l'Italia, per oggi e per il futuro, ma ci rendiamo conto che quando un paese perde la sua credibilità, non la recupera più? Cioè, non è che un domani succede una cosa analoga. Guardi, è successo anche agli Stati Uniti di avere protetto i suoi militari, i suoi soldati. Non mi pare che abbia perso credibilità. Cioè, diciamo la verità. Comunque, un mio follower, sì, anche dimmi, tuo, sì, mi segnala giustamente che Sgarbi, che poco fa tuonava sui cosiddetti deputati, sì, paracadutati nei collegi, Sgarbi stesso nel 92 è stato eletto nel collegio di Cagliari. Cioè, cosa c'entra Vittorio nel collegio di Cagliari? Ma non lo so, me lo stai segnalando, effettivamente, se dice... Nel 92 Vittorio Sgarbi fu eletto nel collegio di Cagliari, proclamato il 21 aprile del 92, l'elezione è stata convalidata l'11 gennaio del 92. Allora, questo è il punto, col Partito Liberale Italiano. Va bene, ho capito. Francesco da Roma, buonasera. Però tuonava... Sì, sì, va bene, va bene, Francesco da Roma non c'è, Marco da Frosinone non c'è più, Carlo da Cagliari. No, Marco da Frosinone c'è, Carlo, dica. Pronto? Allora, io volevo fare una piccola premessa, intanto che noi siamo da sempre affetti dal, io lo chiamo guelfo ghibellinismo, per cui dietro ogni presa di posizione, anche su cose banali, c'è sempre la ricerca di portare, anche se lontano, un pur minimo vantaggio alla propria parte. Però il clou del mio intervento era questo. Da parte sua, Cruciani, io colgo una pragmatica, positiva attesa del futuro di quello che deve succedere. Senta, già mi ha rotto le scatole. Giovanni da Genova, buonasera. Giovanni. Buonasera, mi scusi. Io volevo soltanto fare presente una cosa, che i partiti e, tra parentesi, anche i sindacati, sono proprietari di un mucchio di immobili tramite società di capitale. Sì. Quindi se anche dovessero rinunciare, come uno cioè una persona che è intervenuta prima, a una parte al finanziamento dei partiti, come d'altra parte avevamo già chiesto con un referendum, penso che potrebbero benissimo mantenere i 180, i 198, i 250 accoliti che mantengono. In che modo, scusi? In che modo? In che modo? Eventualmente vendendosi beni, come sta facendo lo Stato. Lo Stato si sì, ma il punto, ma il punto è che è indebitato, cioè i beni di cui lei parla sono stati dati a delle fondazioni, eccetera. Il partito, il vecchio partito, quello precedente al Partito Democratico, sì, sono indebitati fino al collo. Questo è il punto. Ha capito? Ah. E in compenso però il nuovo partito non aiuta il vecchio partito. Vabbè. O magari se lo mangia per conto suo, come ha fatto una parte, perché il nuovo partito è un... Bisogna togliere il finanziamento pubblico, cancellarlo definitivamente, poi si riorganizzino come vogliono i partiti, si riorganizzino su altre basi, si trasformino, perché tutto cambia e lì non può cambiare niente. Cioè, mi spiega perché? Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza, zazza, zazza, zazza. È la zanzara capricciosa. Ma c'è Marco da Frosinone o no? C'è Marco. Marco, dica. Marco? Non c'è. Mario da Padova. Sono qua. Dica. Io volevo dire che sono allibito da questi partiti che non hanno capito la lezione che hanno ricevuto. Io non ho votato per Grillo e non so se pentirmi o non pentirmi. Ma oggi alle ore 19 sentivo il vostro telegiornale che diceva che il nuovo Papa ha fatto la prima cosa che ha fatto dopo essere stato eletto da 24 ore, sì, non settimane, che ha fatto? È tornato in autobus, ha aperto la... Io non sono cristiano. Ha pagato l'albergo. Esatto. Sì, ma ho capito, ha pagato l'albergo, non mi sembra strano a pagare l'albergo, scusi un attimo. No, non è strano per il Papa, è strano per i nostri politici, che sono stati eletti da un mese, se non mi dica qua. Ma pagheranno l'albergo pure loro, no? Cioè, non ma è che non i politici è l'albergo, non... loro devono capire che è cambiato il mondo. Adesso però non metta il Papa come esempio per i politici, perché fino adesso non è successo nulla, il Vaticano è uno stato molto ricco, abbia pazienza. Poi questo Papa vivrà in maniera frugale, vivrà sicuramente in maniera frugale. Io non sono assolutamente cattolico e non mi interessa prendere l'esempio del Papa. a me interessa una cosa sola, che questi sono su e non hanno dato nessun segnale. Questo è vero, questo nazione, è vero. Nessun, non solo nessun segnale, ma continuano a chiedere la fiducia. Ha ragione Grillo, e io ripeto, non ho votato Grillo, a non dargli la fiducia. Questi dovranno andare su, dare un esempio, ridursi lo stipendio. È inutile che quella deputata nuova del PD dica che con la riduzione dello stipendio dei parlamentari non si risolvono i problemi. È verissimo, ma danno un esempio. Questi sono su, o gli vogliono gli stessi soldi, e continuano a chiedere a noi la fiducia agli stessi, o anche cambiati, ma siamo mica pazzi. Cioè questi devono andare via tutti. E penso che Grillo abbia perfettamente ragione a non dargli la fiducia, non hanno capito assolutamente la lezione che gli è stata data dal popolo, e sono sempre gli stessi, mangiano alle nostre spalle. Questa è la mia grande opinione. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma dirà te più triste e ci interessa no dormire. Zanzare, pomate, pomatine, citronella, ma... Paolo Flores d'Arcais dà a Berlusconi del criminale. Ieri alla Zanzara, scatenato, sta raccogliendo le firme per la ineleggibilità di Berlusconi. Sentiamo, sarebbe stato arrestato, doveva essere arrestato 20 anni fa. Guardi che in un qualsiasi altro paese civile Berlusconi sarebbe stato arrestato quasi 20 anni fa. Che c'è un fresh della... Tecnicamente un criminale. Tecnicamente un criminale è colui che commette dei crimini. Berlusconi ha violato una quantità di articoli del codice penale, quindi tecnicamente è un criminale. Visita fiscale? Ci sta prendendo per il culo, sempre Flores d'Arcais, scatenato contro Berlusconi. Per quale motivo non si deve mandare una visita fiscale a una persona che palesemente ci sta prendendo per il culo? Perché io oggi ho letto su tutti i giornali un dettagliato resoconto di tutti i commenti che Berlusconi ha fatto seguendo attentamente la partita Barcellona-Milan e prendendosela anche varie volte col suo allenatore spiegando dove aveva sbagliato. Zanzare, pomate, pomatine, citronella, ma color che niente fa. Collegamento speciale, specialissimo. Beh, capirete tutto da questa musica che sta per arrivare. Ah beh. Dal Quirinale, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Presidente, buonasera, buonasera. Caro Cruciani, devo dire che mi sto un poco affezionando a questo nostro rapporto radiofonico. Beh, grazie Presidente, grazie, molto, molto gentile, un grande onore, soprattutto siamo alla fine del settennato, e, insomma, so che lei però, insomma, le piace quel posto, no? Il Quirinale, no? Beh, ho avuto occasione di segnalarle che, insomma, qui non ci si annoia, diciamo non ci facciamo mancare nulla, e quindi in questo tramonto vivace devo dire che mi sto prendendo qualche piccola soddisfazione. Senta Presidente, ma certo oggi ha mandato una lettera di fuoco, una bella ramanzina a quelli di Repubblica che avevano detto che lei aveva offerto uno scudo a Berlusconi, non gliela ha mandate a dire Presidente. Ma guardi, mi permetto in confidenza, diciamo, di rivelarle una piccola motivazione. Grazie. Approfitto e le regalo questa cosa. Sì. Guardi, negli essendo oramai quasi alla fine, sì, ovviamente nel settennato, sempre toccando cuorna, ho deciso di accontentare un po' tutti. Ah. Quindi ho dato questo contentino ai rappresentanti del PDL sulla parte della magistratura, sì. Cosa in cui invece diciamo avrei assunto ben altri pregiudizi nel passato. Sì. Ho detto di sì a Bersani su alcune cose, l'ho illuso su un appoggio e su un sostegno, sì, che in realtà diciamo che non mi interessa più di tanto, sì. Ma poi la più bella l'ho fatta con il presidente di Confindustria Squinzi. Perché? Che è successo? Ma avrà notato che io mi sono fatto garante niente poco di meno che della possibilità per le pubbliche amministrazioni di pagare i debiti. Beh, sì, lei dice che tanto comunque... Sei un po' sbilanciato. Sei un po' sbilanciato, che tanto no, mica... Devo dirle che quando è uscito il dottor Squinzi, Clio e Dio ci siamo fatti delle grosse risate. Perché tanto sa che quei soldi, insomma, difficilmente si vedranno, Però, diciamo, però lei è durato di più di Benedetto XVI, si rende conto? Io non ho avuto alcuna intenzione di dimettermi. Certo. Scusi, però ha dato anche su quella vicenda, pure a Repubblica, al signor Giannini gliela cantate, quello dicevo prima. Ma questo Giannini, sì, primo vorrei un po' sapere chi è questo Giannini. È il vice direttore. Si confondono i cognomi, i comici fanno i politici, le cantanti scrivono su Repubblica e altre cose di questo genere. Ah, e quella dice, è Gianna Nannini, no? Poi Giannini non è il calciatore, quello della Roma, ecco. L'ex, lei dice, no? Allora è stata una piccola confusione, è che qui ho dei consiglieri piuttosto anzianotti. Penso, però ho dovuto prendere carta, penna e calamaio per rispondere a delle affermazioni assolutamente inaccettabili, certo, probabilmente mosse da questo mio... da questa mia voglia di giocare un pochino ad accontentare tutti, come le dicevo, che mi ha molto divertito. Certo. Va bene, Presidente, noi la ringraziamo. Ma scusi, ma perché lei dice sempre nei suoi interventi con grande ribadimento? Perché non è grande ribadimento. Tutte le volte che lei deve sottolineare, dice, ma scusi, Presidente, se mi permetto di... Guardi, devo dirle che alcune allocuzioni che mi costringono ad usare, anch'io stento a comprenderle. Ah, ecco, per oramai il linguaggio quirinalizio è fatto di suffissi, è fatto di interlocuzioni le più complesse, ma comunque sempre con misura, sempre con attenzione, sempre con grande rispetto dell'arco costituzionale e del civile vivere del paese. Anche questa cosa di mettere gli aggettivi prima del nome non l'ho mai compresa fino in fondo. Scusi, Presidente, un'ultima cosa, stasera che si mangia al Quirinale? Questa è una buona domanda, perché stasera siamo nella piena tradizione con un'orata all'acqua pazza. Eh beh, siamo al top. Grazie. Devo dire che sono ai fornelli, questa mia degli italiani della gastronomia mi ha un poco contagiato. Grazie, Presidente, buona serata. Grazie a voi, saluti. Collegamento speciale con il Presidente Napolitano, 800 24 00 24. Che battaglia questa sera, è con noi Carlo Freccero, direttore di Rai 4, reduce da una vittoria clamorosa. Evviva! Freccero, buonasera. Salve ragazzi, tutto bene? Beh, benissimo. Allora, scusi Freccero, leggo oggi da Libero, da Libero, quotidiano Libero. Lei sa chi è il direttore di Libero? Come si chiama, scusi? No, non lo nomino. Come non lo nomina? Perché lo nomini? No. Non lo vuole nemmeno nominare? Nemmeno nominare, no. Cioè, non ha... Che cos'è? Non ha dignità. Non ha dignità di essere nominato? Ho altro per capire, un grande direttore lavora anzi a 3-4 contratti, lavora anche per Mediaset, ecco, lì lo possiamo dire. È il direttore che lavora per Libero, ma lavora anche per Mediaset. Sì. E fa tutte le mattine le interviste. Sì. E quindi chiaramente è un uomo a Mediaset che è anche direttore di Libero. Sì. Signor Belpietro, dico io, signor Belpietro. Signor Belpietro. Che personaggio è il signor Belpietro, secondo lei? Un giornalista Mediaset, dei più, diciamo così, organici a Mediaset, mi sembra. C'è un dipendente di Berlusconi? Sì, penso proprio di sì, cioè, mi sembra normale questa cosa, ma questo non fa mica, ci sono dei dipendenti di Berlusconi, sono bravissimi. E lui invece? No, mi sembra che lui abbia un partito preso e continua a infangare la RAI, chiamarla porno RAI, questa cosa è molto grave. Questo le volevo dire, oggi Libero torna la porno RAI. Non è possibile, ma non è porno RAI, ma perché deve continuare a diffamare così? Allora, è un giornalista, voi lo sapete benissimo, sì. io già sono contro, addirittura contro le carceri, cioè le carceri mi fanno orrore, sono per la battaglia dei radicali, ho firmato contro naturalmente, però Vabbè. È il giornalista che diffama, sì. È pericolosissimo, è come veramente il medico che sbaglia, il chirurgo che sbaglia. Ma la diffamazione qua qual è? Quella di chiamarla porno Rai? Questa... non è porno Rai, ma non è porno Rai. Questa serie fisico-chimica. E continua a chiamarla porno Rai, ma perché? La serie con sesso, gay, nudi e Spinelli. Ma sì, ma poi la cosa bella è che ha doppia morale, perché quando parla di Berlusconi allora niente, non si può dire nulla. Quando parla di questa serie si scatena, diventa fondamentalista, sembra quasi veramente un islamista. Ma dai, per favore, è una buffonata, basta, una buffonata. Beh, scusi un attimo, lei oggi mi sembra che dica addirittura una delle persone più schifose che abbia mai incontrato. No, non ho detto questa cosa, è il giornalista che ha estrapolato una cosa. Ho detto comunque che è una persona veramente cattiva, questo sì. Cattiva, cattiva. Sì, io credo che sia veramente cattiva. Cioè una persona così è, veramente, questa cosa l'ho avuta sulla pelle. Le perseguire, a diffamare, a raccontare il falso è cattiveria. È una cosa che io non potrei mai farlo. Ma perché se la prende tanto con questa serie che va in onda su Rai 4, parlano di porno Rai, di sesso, nudi, Spinelli, perché sono ossessionati? Non ho capito perché. Ma non fatelo capire. Io lo so perché. Perché? Perché faceva molto ascolto, faceva tanta pubblicità, sì. E chiaramente lui ha voluto in qualche modo creare un disastro veramente economico alla Rai, perché questa aveva sull'audience, sul target commerciale, esattamente 2,80. Pensa un attimo. Vabbè, però che gliene frega Belpietro di questa serie? No, è per capire se lavora per Berlusconi, sta questa cosa. Berlusconi, guardi che la prima cosa sono il fatturato. Cioè, vuole distruggere la Rai, un buon prodotto della Rai, dice. Esattamente, un buon prodotto della rete digitale che ha nulla a che vedere con la rete generalista, chiaro che sì. Porno Rai, ancora viene chiamata porno Rai. Io adesso lo sai, io sono libertario al massimo. Come si fa a definire una cosa di questo? Io l'ho pure visto alcune cose perché ne parlammo tempo fa. Vabbè, ma non è per nulla. Ma di che parliamo adesso? Porno Rai, cari amici, di Libero, non si può chiamare porno Rai una roba che, cioè, una roba normale che avviene. Vergogna. È la vita, è la normalità. Oh. Sono i rapporti tra i ragazzi, c'è anche questo nei rapporti tra i ragazzi. Qual è il problema? Porno Rai, ma io non capisco, vabbè. Vale. Senti, altre novità che ci sono oggi, che ho dovuto fare presentare il libro il Papa. Però io voglio insistere ancora una volta, scusi, una persona cattiva, che vuol dire una persona cattiva? Una persona cattiva è una che persegue in qualche modo, in modo disonesto, da persecuzione. Lei però, questa parola però schifosa l'ha detta però. Non l'ho detta. Più schifosa che abbia mai incontrato. Veramente no, non l'ho detta, anche se poi l'ho detta, io ne penso di peggio, se vuoi saperlo. E che pensa di Belpietro? Cosa lo posso dire? Cioè, ne penso di cose veramente atroci, cioè. Beh, atroci, che Belpietro è una persona normale, cioè non è che uno per cose atroci, che ha fatto? È di una persona cattiva. Più divento in qualche modo maturo, più trovo le persone buone e cattive. Lui è proprio cattivo. È cattivo e lo fa con veramente, ma come posso dire? Cioè l'obiettivo era, oltre al fatto la Rai, anche distruggere Freccero? Distruggermi, che poi cosa mi distrugge? E siamo qui allora, i candidati di Grillo per la Camera e il Senato sono Fico per la Camera e Luis Alberto Orellana, che è un senatore di origine venezuelana, per il Senato. Ora voglio chiedere a Freccero, però, a me questa storia dei presidenti, questo balletto, dovrebbero rifiutare tutte le cariche, perché c'è questa, c'è questa cosa delle candidature alle presidenze, eccetera, rifiutare tutte le cariche, perché uno si riunisce e passano 3 giorni per dare dei nomi? Sono un po' imborghesiti sti grillini o no? No, scusa, se fai politica e se vinci le elezioni sono due modi, non puoi più restare fuori, se no non ti presenti. La filosofia era diversa secondo me. Ma la filosofia non pensava di raggiungere, malgrado Casaleggio sia un ottimo uomo di marketing, non pensava fosse di essere primo partito. Questo l'ha sorpreso anche lui, secondo me l'ha sorpreso completamente. E purtroppo si trova in una posizione molto strana, perché è molto facile stare fuori e fare le pulci naturalmente al cane della politica, ma purtroppo quando ci sei dentro... Cioè lei dice, la teoria di Freccero esposta nei giorni scorsi è che Grillo che è un po' in trappola adesso. Sì, è in trappola, sì, è in trappola, e naturalmente è in trappola perché chiaramente deve anche lui scendere, diventare anche lui uomo politico, cioè quindi negoziare eccetera. Guarda, la cosa interessante, molto a me piace molto quella, nel 92, secondo me c'è stato questo grande capovolgimento, è stata grazie anche alla TV commerciale che ci siamo liberati dalla vecchia DC, ricordiamoci, perché il pubblico ha imparato a non avere nessuna riverenza verso l'elite eccetera. Oggi, grazie appunto a questo mix di web e televisione, sì, sì. È una social network, siamo liberati nuovamente dei partiti, però non vorrei che capitasse ancora una volta una storia analoga. Cioè? Mi auguro, cioè, che Grillo ha fatto un'operazione straordinaria, l'anno scorso. Cioè lei dice, dopo Berlusconi uscimmo fuori con Berlusconi, adesso Grillo. Non vorrei che ci fosse un po' di confusione, cioè che la parte destra esce sempre molto bene e nella parte costrumes che diventa più difficile. Io mi auguro naturalmente che Grillo non continui solamente a, in qualche modo, a distruggere. A praticare solamente quello che può praticare naturalmente un gesuita, che basta Auto Blues, basta sono cose di lui. Però anche avere un'altra visione del mondo, cioè questa volta sulle cioè fosse per lei ha già detto un accordo col PD subito. A parte il fatto che obbligherebbe il PD a cambiare, già questa è una cosa importantissima. Io credo che il PD prima e dopo le elezioni siano diverso. Io certo, fa impressione, come dice lei, sentire oggi esponenti del PD parlare di dimezzamento dei parlamentari. Non solo, ma quindi è positivo, finalmente non guardano più, non sono più il ventriloquo di Monti, già questo positivo, e finalmente è tornato un partito di sinistra, anzi. Dopo la vittoria di Grillo, Bersani ha iniziato la campagna elettorale. Quindi finalmente. Ma non è troppo tardi? Non è troppo tardi? Ma forse potrà essere utile quando si voterà fra 6-7 mesi. Ma Renzi, se il futuro del PD è Renzi. No, è tutto aperto questa cosa. Vedremo un attimo, si è aperto. Perché quando un partito si mette in moto, anche Renzi potrà essere portato. E forse anche lui ha perso la sua occasione d'oro. Non sarà così facile. Però Renzi vuole le stesse cose di Grillo, la diminuzione dei parlamentari, meno soldi. Ma non vuole. Ma poi ci sono altri discorsi ancora, perché poi non è basta. L'economia, quindi vedremo un attimo. Quindi è interessantissimo la situazione. Renzi è liberista, lei non sopporta i liberisti? No, sono molto liberista, liberista. Beh, infatti, io sono liberista sul piano giusto delle libertà individuali. Su questo, sono l'ultraliberista. Poi capire. Non sono liberista nel fatto che quando si parla di economia occorre creare anche solidarietà e pensare. Senta, Freccero, ma il Papa che ne pensa del Papa? Perché qui oggi abbiamo rispolverato alcune frasi contro gli omosessuali, normale però, anche se erano delle frasi un po' pesanti. Gliene leggo una sulle donne, perché ancora questa sulle donne, speriamo che sia vera questa qua, perché prima c'è una cosa sulle donne che ha detto il Papa tempo fa. Allora, l'incapacità delle donne in politica, dichiarazione del 2007. Le donne sono naturalmente inadatte per compiti politici. L'ordine naturale di fatti ci insegnano che l'uomo è un uomo politico per eccellenza. Le scritture ci mostrano che le donne da sempre supportano il pensare e il creare dell'uomo, ma niente più di questo. Erano dichiarazioni rivolte alla presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner. Tutto bene, molto bene. Infatti, come voi sapete benissimo, ci sono diverse letture su questo Papa. Io credo che un gesuita è uno che è sempre molto politico, è uno che chiaramente si adegua sulle. Però il fatto che insomma, meglio lui che tutta quella Bertone Sodano. La curia, dice lei. La curia. Sì, meglio. Su questo bisogna dirlo. Poi vediamo un attimo. Ma c'è la lobby gay, secondo lei, in Vaticano? Ma penso proprio di sì. Le posso dire una cosa molto importante? Sì, sì. Allora, c'è un cardinale che era amico di Bertone, che era vescovo di Savona, Calcagno. Come no, certo, un caso clamoroso, caso clamoroso. Ecco, basta, allora lo sapete questo fatto. Sì, sì, ma no, ma una lobby gay che distribuisce anche incarichi, eccetera, che guida un po' tutto. Io purtroppo non ci sono, io credo che... Cioè, no. Secondo lei Bertone è il capo di una lobby gay, no? No, Bertone comunque che sia un capo, che sia un grande... Vabbè, quello sì. Allora lì, poi non mi interessa se è gay o un gay, anzi poi non c'è nulla contro i gay, quindi benissimo, viva i gay, punto. Però ci sia un lobbista, non può essere un cardinale, uno si ricorda anche per le sue omelie, per le sue, la sua di qualche modo teoria. E invece Tibertone solo lobbista. Io sono seminarista, ragazzi miei, quindi io conosco queste cose, sono una competenza. E che le è successo in seminario? Qualcosa a lei, no? No, tutt'altro, anzi, devo dire che io non ho avuto mai problemi, cioè, no. Però dico, io sono in seminario e credevo veramente, poi ho letto la lettera della regione di Jean-Paul Sartre. È cambiato tutto. Un abbraccio a caro Freccero. Vi ringrazio ancora, braccio. Io non ho nulla contro nessuno, però non sono contro le persecuzioni in malafede. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo sueno. Ancora Sgarbi alla Zanzara l'altro giorno. non su PDL, eccetera, eccetera. Sentite, sentite. L'ignoranza di questi è tale, sì, che dicono una cosa e poi si scudono ad averla detta. Ora, nel dire che il fascismo ha fatto cose buone, sì, non c'è evidentemente un appoggio al fascismo, ma un riconoscimento fotografico della realtà. L'enciclopedia Treccani è buona o cattiva, porca puttana! E quando è stata stampata? E la scuola normale di Pisa, in cui c'è il famoso Settis, quando è stata rifondata? E gli scritti di Gentile? E le scuole archeologiche? Sì. E i restauri fatti a Lepsis Magna? E Marconi e Fermi, cosa sono? Grillini di merda, che cosa sono? Sono meglio del vostro pensiero inesistente, no, un pensiero rubato, un pensiero ovvio. Però allora, scusami Vittorio, Marconi ma sono fascista, sì. Fermi era fascista, Pirandello era fascista, lo erano orgogliosamente e siamo orgogliosi di loro. Ora o parliamo delle cose. Però questi l'hanno detto, questa l'ha detto. Parliamo del fatto che non c'era la democrazia. Ebbene, non c'è neanche adesso. Quando io voto un coglione che non va in Parlamento, ma fa il guru. Peggio che il fascismo. Ho capito. Però scusami. Giovanni da Torino, 800240024. Buonasera. Giovanni. Ciao Cruciani, scusami. Dica. Mi senti? Sì, sì, dica. Ciao, senti, scusa, mi chiamo perché vorrei che qualcuno, un giornalista, chiunque, facesse delle domande semplicissime ai grillini. Cioè vorrei chiedergli perché vogliono levare i soldi ai partiti come se questa fosse la cosa che sistema poi l'economia pubblica, quando invece abbiamo una sanità che costa 115 miliardi di euro contro i 150 milioni di euro dei finanziamenti ai partiti. Poi non è vero che la politica è libera dall'economia. Sì, ma il benaltrismo... scusi Giovanni, la questione è che non si può dire gli sprechi sono altri, i soldi sono altri. Bisogna o no tirare giù la sala cinesca, trum, sul finanziamento pubblico ai partiti? Secondo me sì. Bisogna togliere soldi ai partiti in modo che li trovino in un altro modo. Bisogna ripensare a tutto il modo di finanziare la politica. Sì, bisogna togliere le province, scusami, cancellarle, sì. Punto, poi dopo i problemi sono altri, sono sempre altri i problemi. Certo, però dico, vedi cosa succede quando i soldi ti prendono in un altro modo, che poi ti trovi Grillo che porta i soldi nel partito, però la gente del partito gli dice quello che deve dire. Ho capito, ma non è che l'alternativa sia solo... Non è che l'alternativa ai partiti come adesso sia solo Grillo, un partito organizzato come quello di Grillo. Cioè, ci sono anche altri sistemi, Io non ho visto tante altre alternative, penso che il voto abbia dimostrato che non ci siano tante altre alternative. Poi comunque, ripeto, il mio problema non è tanto la gestione della politica così com'è, è anche dire che la politica è gestione di quello che comunque sono i centri di potere che ci sono dentro uno Stato. Qua diciamo buttiamo via tutto, facciamo una rivoluzione, sono arrivati i francesi, spacchiamo tutto e poi chi viene dopo a prendere di nuovo il potere? Cioè abbiamo mandato dentro gente come Bartolomeo Pepe che ha 50 anni, 5.000 anni, è un rincoglionito, non sa neanche dove sta cenando a Palazzo Madama. Cioè, sta gente deve essere folgorata, ma giù dalla finestra la dobbiamo buttare, cioè, c'è proprio defenestrazione totale. Poi vorrei capire anche un'altra cosa, sì. Cioè, quando le aziende italiane che vivono di export si troveranno in uno stato uscito dall'euro, che cosa faranno? Cioè, queste aziende che cosa faranno? Chiuderanno, posti di lavoro schizzeranno? E poi, sempre a tal proposito, vorrei capire un attimo la frase sul reddito garantito. Vabbè, quella, il discorso si fa, il discorso si fa molto lungo, Giovanni. Grazie. Andiamo, Maria Rosa da Brescia. Buonasera. Pronto? Dica. Buonasera, signor Cruciani. Ascolti, io le farò una domanda diversa da tutte quelle che stanno facendo. Un attimo solo. Ah, il telefono che squilla. Che diceva Maria Rosa? Sì, buonasera. Sì, no, d'accordo, che stava dicendo? Le farò una domanda? No, le farò una domanda che non è riguardante il Papa e le elezioni. Sì. Lei, io sono una nonna di 74 anni. Sì. mi deve scusare, il colloquio che ha avuto lei martedì 12 col signor Villaggio, avendomi qua tre miei nipotini nell'ora della cena, è stato semplicemente di una volgarità che io non ho mai sentito. Volgare il signor Villaggio e lei che gliel'ha permesso. E poi... Mi dispiace, signora, è la vita, è la vita. No, non è la vita, signor Cruciani, io e i miei nipoti. È l'ironia, è la satira, è la... No, e lei, non suoi è nipoti. Satira, signor Cruciani, mi scusi. Ho capito, io è Villaggio, mica l'ho detto io quelle cose, è Villaggio. No, lei gliel'ha permesso di dire. È certo che io l'ho permesso, lei perché permesso di dire. Morivo anche dalle risate, se proprio lo vuole sapere. Come? Morivo anche dalle risate, se proprio lo vuole sapere. Vabbè, allora ascolti, io ascolti, ho qua tre nipotini, a capito. Quale delle volte dico, sentite anche queste trasmissioni, perché io l'ascolto. Quando saranno più grandi si divertiranno. Mi sono trovato in imbarazzo. Lo so, ma i nipotini quanti anni hanno, scusi? Beh, uno ha 12 anni e capisce le robe. Poi? Uno ha 8 anni e uno ne ha 6. Beh, ma è un'età un po', è un'età, insomma, non dovrebbero ascoltare molto la radio, in particolare la Zanzara. Ah, no, scusi, a quell'ora lì cosa le faccio ascoltare? Le cretinate della televisione? Beh, li metto davanti alla televisione con un bel cartone animato, un bel cartone. Scusi, lei adesso vuole avere ragione a tutti i costi. Un bel cartone, non la Zanzara, si parla di politica, la politica è sangue e merda, signora. Abbia pazienza. Lei ha ragione, però io questo linguaggio non sono abituata. Lo so, ma lei non è abituata, ma in politica ne dicono di tutti i colori. Lei mi fa l'esempio dei suoi nipoti che hanno 12 anni, ma 12 anni sì, uno però guarda... ha dato fastidio anche a me, signor Cruciani, come donna di 74 anni. E appunto dà fastidio a quelli di 12 e di 74. Nonna? Sì, no, purtroppo non ce l'ho più. Anche la sua nonna. Purtroppo non ce l'ho più. Mi dispiace per lei perché le nonne sono fondamentali. Lo so, sono fondamentali, probabilmente avrebbe dato fastidio anche a mia nonna, però pazienza, ecco, non si può piacere allora a tutti. Allora io le dico, però questi tromboni, perché io li chiamo tromboni, ecco, come dice... Invece tromboni va bene. Invece. Ecco, bravo il signor... Però anche lei che da un certo periodo di tempo usa certi linguaggi che non piacciono neanche a me. Lo so, ecco, signora, mi dispiace. Io le dico solo, stia attento a dire certe cose. That's soprattutto life. Con le persone lì che invita. Va bene, l'abbraccio fortissimo, ma grazie. Cosa vuole? Maria, provincia di Bari, buonasera. Salve, salve, buonasera. Buonasera, senta, io mi sto preoccupando per la salute di Berlusconi. Perché? Cioè, il Papa forse domani esce Berlusconi. Ah, ecco, meno male. Perché il Papa ha la stessa età di Berlusconi, deve farsi la via Crucis, eccetera. Sto povero vecchietto chiuso lì in ospedale, insomma, mi preoccupava tanto. Ma lei è ironica, lei se ne fotte. Gli anziani, mentre stanno bene, poi decadono. No, ho capito, non è che a 76 anni sono tutti uguali, E sì, poi all'improvviso stanno male, poi. Senta, lo so, ma lei ironizza, ma è così, non è che a 76 anni sono tutti uguali. Se fossero tutti uguali sarebbe un delirio. Cioè, senta, sarebbe il mondo Second voglio Life. Dire. Voglio dire un'altra cosa, per favore. Lei prima ha chiesto a Freccero cosa pensava delle lobby gay in Vaticano. Sì, no. Ma forse la persona più adatta è D'Alema, visto che lui è viceconsole in Vaticano. Chi? D'Alema. D'Alema è viceconsole in Vaticano? È viceconsole in Vaticano. Ma quale viceconsole? In che senso? Che ha grandi rapporti con il Vaticano? Sì, l'ho letto tempo fa sull'Espresso. Vabbè, ho capito. Un giornale loro, tra l'altro. Cioè, la carica di viceconsole. Viceconsole in Vaticano. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Moustique, mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Siamo diventati la terre, la seconde, la prima forza politica del paese. È fantastico. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Giuseppe Dalodi, buonasera. 800 24 00 24. Sì, Giuseppe, buonasera. Sì, dica. Ascolti, quello lì che li vuole tutti in galera, che gridava 2 secondi fa, no? Ha fatto i suoi bei nomi per la Camera, per il Senato. Come mai? Sei imborghesito. Sei imborghesito. E lei gli ha dato il voto al borghese. Mi dispiace di lei. Ma che c'entra, Giuseppe? E come che c'entra? Cioè non c'entra nulla, dai. Ma non è che il PDL gli fa uno scherzetto al Senato e gli fa votare veramente il suo senatore. Ma lei lo sa che c'è uno scenario che oggi viene fatto tra quelli che si intendono di queste cose, una cosa tristissima. Lo scenario è addirittura questo, che sarebbe che sarebbe la Lega, lascia perdere gli scenari del Quirinale, la Lega che permette la nascita di un governo Bersani. Perché i voti con l'avallo di Berlusconi, ovviamente, sono 123 senatori del centro-sinistra, 19 montiani, 17 leghisti, in tutto fa 159. e Maroni sarebbe di quest'idea, d'accordo con Berlusconi, quello di fare comunque nascere un governo Bersani, perché in realtà, questa è la mia opinione tra l'altro, a Berlusconi non conviene nella maniera più assoluta andare a votare. Vabbè, certo. Perché ha ottenuto il pieno in questo caso. Se poi si candida Renzi sono cazzi amari, perché Renzi si porta via un sacco di voti dal centrodestra e adesso i deputati che ha il centrodestra sono sicuro che non li riavrebbe mai più. Questo è un calcolo che può fare Berlusconi. No, dunque... Infatti un altro scenario che mi hanno raccontato oggi pomeriggio invece, che tu dici di no, è quello che vede un accordo PD-PDL con D'Alema e Quirinale. No, io non dico di no. Bersani no? A Palazzo Chigi, ovviamente sì. Tutto con il consenso e il voto del PDL e anche dei Montiani. Sì. Salva condotto per Berlusconi. Ma che vuol dire salva? Questa è una stupidaggine. Ma salva condotto cosa vuol dire? Spiegami. Salva condotto vuol dire intanto che non si vota la richiesta di arresto. Ma quale richiesta di arresto se ancora non si parla di richiesta di arresto? A maggior ragione in vista di tutti i processi. Della sentenza. Fai parlare Giuseppe un attimo. Rogiani, mi scusi, aveva ragione Sgarbi. Lui, i 200 prima di Berlusconi eventualmente dove sono? I 200? I 200 che hanno fatto la Rubi prima di Berlusconi, dove sono sotto processo? Tutti quelli di Fini che sono andati via, dove sono sotto processo? Ma che c'entra sotto processo? Scusi, non ho capito. Che no, la barzelletta dell'arresto a Berlusconi, no? Non ha capito che è una barzelletta, ormai da 20 anni ci siamo rotti le palle, o no? Non l'ha capito ancora Parezzo, anche lei così. Ma chi si è rotto le palle? Ma stiamo parlando di processi, ma cosa vuol dire rotto le palle? Ma che no, che nel senso di Berlusconi, sti scenari che Parezzo adesso ha parlato del discorso di giustizia, no? Che ha deviato il discorso, ha capito? Ha deviato il discorso, io mica la capisco, amico mio, la abbraccio ma non la capisco. No, non ho capito nemmeno io. Marco da Bari, buonasera Marco. Marco, buonasera, dica. Sì, buonasera. Vada, sì, vada. Una cosa a proposito dell'omosessualità nella Chiesa. Sì. Allora, siccome esiste il voto di incapacità nella Chiesa, sì. Che secondo lei esiste invece il un voto? Problema gay. Voto di castità, sì, allora? Esiste il voto di castità, quindi sì, allora? I preti che siano etero o che siano gay non possono far sesso. Allora? Perché è così forte il problema dei gay e non quello degli etero? Voglio dire, se sappiamo bene che esiste questo grande problema, io dovrei dare per scontato che gli altri preti, ossia quelli che sono etero, abbiano regolarmente delle donne. Ma guardi che riguarda non è che riguarda solo gli omosessuali, riguarda tutti il problema della castità. Cioè non è che riguarda solo gli omosessuali, anche se uno è etero o omosessuale. Vabbè, lei sente parlare, ma quando uno parla del voto di castità non è che si riferisce solamente ai pedofili, ai gay della Chiesa, a tutti, in generale a tutti. Quindi dovrebbe essere esteso a tutti. Vabbè, Danilo da Monza. Sì, buonasera. Dica. Buonasera Parenzo. Io mi rivolgo a Parenzo come diciamo così, come rappresentante di tutte quelle facce torve che si vedono in giro oggi. Sì. Credo tutti i votanti del PD. Io volevo chiedere, ma cos'è che non vi è chiaro ancora? Di cos'è ma che avete chi? Paura? Ma chi non è chiaro? Ma mica del PD, io. Ma chi? Cosa? No, cosa no, non è chiaro? Mi faccia finire. Ci metto un secondo. Abbiamo tutti letto la casta, l'abbiamo regalata. Sono 10 anni che ci scandalizziamo ad ogni puntata di Report. Tutti bravi finché si tratta di parlarne al caffè coi colleghi, di postare un link su Facebook. Adesso che dobbiamo sporcarci le mani, voi sì. Vi state cacando addosso. Ma chi ma si sta cagando? Ma voi cacando chi? Addosso. Ma voi chi? Voi del PD. Ma voi del PD chi? Ma io non ho mai votato PD Parenzo, vita mia, l'ho votato. Ma Parenzo non è del PD. Ma Parenzo è assolutamente del PD. È militante Parenzo, del PD, dice lei. Ma quale assolutamente PD, sì. Quindi, e concludo. Un attimo solo, un attimo. Vabbè, questo poveretto qui. Militante del PD, pensate. Ma è la stessa persona di prima? No. Stai provando il cellulare del Papa? No. Questo sarebbe. Pronto? Senatore Petrocelli? Sì, si parla. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24. La disturbo? Parenzo. Sto cenando, in realtà sì. No, le posso fare 2 o 3 domande veloce? Non le prendo molto tempo. No, guardi, sto cenando cortesemente. Ho risposto perché ho visto sconosciuto, però vorrei continuare a cenare tranquillo. Ma 5 minuti, solo 2 no, domande. No, molto gentile, ma mi dispiace. Ma che mangia almeno? Addirittura. Vabbè, ma siamo curiosi. Almeno quello. Sa che siamo 2 curiosoni noi. Almeno quello. No, almeno quello nemmeno, se no non mangio più. Non ma bevi un po' di vino, un goccettino di vino almeno prima di... No, ma le volevo fare qualche domanda sul fatto che avete scelto il vostro candidato al Senato. Al Senato. Al Senato, no comment. Mi no lasci, comment. Sì. Buona serata. Buona serata, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Però certo è curioso che questi mangiano alle 20:40, sì, questo è curioso. No, ma che questi qua non parlino, no comment sulla candidatura. No, ma è anche curioso l'ora in cui vanno a cena. Vabbè, alle 20:40 si mangia, non è che ma non dai, si mangia. Dai, ma si mangia alle 9:30, alle 9, ma 20, sì. 40, Danilo, roba. Che voleva dire allora? No, allora, se non si è capito, sono un simpatizzante del movimento, non capisco... Sì. Questi sinistroidi come Parenzo, adesso se Parenzo non è di sinistra allora io sono amministratore delegato di Google. Beh, sì. Può essere, buonasera Presidente, amministratore. Buonasera a lei, ecco. E concludo semplicemente che con Parenzo, se non volete prendervi questa responsabilità storica. Ma su che cosa? Mi spieghi qual è l'argomento? Di quello che sta succedendo, di quello che sta succedendo. Sì, ma lei può dire una cosa concreta per favore? Una cosa concreta, il finanziamento pubblico, che cosa? Tutto quello che stanno cercando di portare avanti. Ma veramente per adesso non si è visto niente. Per adesso si è visto una gran discussione sui candidati alla Camera, al Senato, le vicepresidenze, eccetera. Quello che ho visto io ho votato pure io 5 Stelle, per carità. Ma assolutamente però, lo so. Però le sto dicendo che per adesso si è visto questo. Dopodiché Grillo dice alcune cose che Bersani dovrebbe fare. Vediamo. Aspettiamo i primi... No, ma io sono sicuro che li farà. Aspettiamo, non farà caso, non aspettiamo farà caso. Le prime proposte di legge, perché ci vorranno delle proposte di legge sulla riduzione dei parlamentari e sulla questione dei rimborsi ai politici e sul finanziamento pubblico, perché lì basta una legge per cancellare la legge attuale che è una vergogna sui rimborsi ai partiti, è una vergogna, basterà, ci vuole, cancelliamo questa legge, vengono cancellati i finanziamenti pubblici. Siccome le Camere si inaugurano domani, vedremo se queste cose verranno fatte nell'immediato, giusto Danilo? Ma noi, no, me, ma io forse noi siamo capiti. È chiarissimo, a me lei probabilmente è chiarissima questa cosa, ma quello che mi lei forse non purtroppo... chiedo scusa Parenzo, finisco no, poi, ma quello che forse lascio... lei purtroppo fallo non finire capisce. Un attimo, fallo finire, chiedo scusa un secondo, quello che è chiarissimo a me, lei e tutti quelli che hanno deciso per protesta o meno di votare Grillo, non mi sembra altrettanto chiaro invece in queste altre persone. Io mi sono rivolto a Parenzo ironicamente come rappresentante, perché mi sembra lui stesso ironizzi molto sul movimento, quindi molto, semplicemente sì. Dicevo che se non se la sentono di prendere questa responsabilità storica, cioè questo, quello che sta succedendo in Italia non si è mai visto. Se dopo 20 anni non avete ancora capito che Berlusconi siete voi della sinistra, vabbè, se volete... Berlusconi, quelli della sinistra, è una cosa un po' grossa. Che vuol dire? Che hanno la stessa logica? Il finanziamento pubblico, i soldi, queste cose qui? No, Berlusconi esiste da 20 anni. Perché la sinistra non è stata capace di cancellarlo? Perché da 20 anni esistono loro che come obiettivo hanno solo lui. Questo è il concetto. Grazie Danilo. Antonio da Foggia, sì, però Parenzo non c'entra niente, fa il giornalista, non è militante del PD. Beh, lascia perdere, fammi sentire Antonio da Foggia. Antonio, abbassi la radio, chiuda la radio e parli. Vabbè. Antonio, no, dica. Sì. Parli, la prego, la scongiuro, parli. Sì, sono intervenuto per manifestare che molto probabilmente lei è insoddisfatto della nomina del Papa. Ma io non sono insoddisfatto per niente, ma non si può ricordare in questo mondo che il Papa ha pronunciato delle parole sugli omosessuali e sulle donne? Si potrà avere il diritto di fare questo, sì o no? Oppure è impossibile, oppure bisogna stare nel solco di quelli che elogiano anche le piccole frasi, i piccoli sospiri? Cioè, si potrà fare, sì o no? Si potranno ricordare alcune frasi del Papa sugli omosessuali senza dire che è un criminale di guerra? Semplicemente ricordare queste frasi sugli omosessuali e sulle donne? Oppure oggi bisogna solamente stare lì appesi a qualsiasi sospiro per dire «Oh, ecco, il Papa dei poveri, la misericordia», eccetera. Si potrà, sì o no? Certamente. Ah, ok, bene, è consentito, meno male. Io mi riferivo invece all'espressione che lei ha usato l'altro ieri. E io a quello mi riferivo come... Che espressione ha usato? Scusi, che espressione ha usato? Che si augurava che il Papa, affacciandosi su Piazza San Pietro, dicesse «Io sono gay». Ma quello era l'augurio di Don Gallo che noi scherzosamente abbiamo fatto nostro. Era l'augurio di Don Gallo. Berardino da Roma, buonasera. Buonasera, io volevo dire soltanto che tutta questa umiltà data al Papa soltanto perché ha messo una croce di legno, perché per come parla è pura ipocrisia, è come dire... Un attimo solo. È un bel segnale comunque. Nando Grillino? Ma sei tu questo? Lavarsi le mani sempre. Ah, sei tu che ti stai lavando le mani. Sei tu che ti stai lavando. Dopo che si fa la pipì. Vabbè, allora Berardino, che stava dicendo? Ma tu lo sapevi che tu lo sapevi che Enrico Grillo, vicepresidente dei 5 Stelle, in quel famoso documento pubblicato nei giorni scorsi dall'Huffington Post, è il cugino, chi è? No, no, è il nipote di Grillo, Enrico Grillo. A un certo punto, un giorno, che avvocato, fece le veci di Carlo Taormina, racconta così il Corriere della Sera. Impossibilitato ad essere in aula nella sentenza di appello contro Stefano Diamante, una persona che veniva assistita evidentemente da Enrico Grillo, dunque Taormina ed Enrico Grillo devono avere dei rapporti. Che era stato accusato di aver ucciso la madre per non farlo scoprire una laurea mai conseguita. Diamante, questo Diamante, assolto in primo grado. Diamante, assolto in primo grado, Diamante scelse Taormina per il prosieguo del processo. Certo. Fu condannato a 30 anni. E dico solo questo. Berardino, allora, che stava dicendo? Di questa ipocrisia, diciamo, di inneggiare all'umiltà del Papa quando ancora deve fare qualcosa di concreto. E poi l'ipocrisia anche di Grillo, che pensa di andare a governare da solo senza scendere a patti con la vecchia politica. Si fa la nuova politica grazie a patti con la vecchia politica, perché se no lì sopra non ci andrà mai. Grazie. Vabbè, non ho capito nulla. Umberto, provincia di Alessandria, buonasera. Buonasera, niente, io appartengo a una specie in via di estinzione. Io, diciamo, io sono un bersaniano, nel senso, sono un elettore del PD, ma più che per adesione al programma, un po' per fiducia nella persona di Bersani. E sinceramente io non mi capacito di sto carachiri che sta facendo, di andare a dare la camera, diciamo, ai grillini senza avere nessuna certezza in cambio, insomma. E cosa vuole che le dica? Cioè, le trattative in realtà la presidenza, ma chi se ne frega della presidenza della Camera e del Senato? Ma io me ne fotto di queste cose. Per me dovrebbero essere cariche spoglie di poteri, tra l'altro. In Italia queste cose qui si accompagnano sempre a privilegi, stipendi in più, soldi in più. Sì, no? Sì, certo, qualcuno dovrà guidare l'aula. Però in Italia queste cariche si accompagnano sempre ad orpelli, soldi in più, cariche, questo uffici che vengono mantenuti negli anni. Adesso c'è stata una riforma alla Camera, ma non so quanto. Che vale però per i futuri presidenti, non per quelli passati, tra l'altro. Cioè, queste cariche si accompagnano sempre ad un tale numero di poteri e soldi in più e di privilegi in più, che andrebbe tutto questo andrebbe spazzato via. Ma poi certo ci deve essere il vicepresidente della Camera avevano addirittura un alloggio dentro. Sì, sì. Cioè, la disponibilità, ecco, queste sono cose che effettivamente appunto per anche queste cariche vanno tolte di me. Non c'è dubbio. Cioè, vanno mantenute ovviamente, però va tolto tutto il superfluo, cioè deve ma una carica come un'altra, lo speaker, cioè un moderatore, uno che sta là che si rompe i coglioni alla Camera o al Senato a dirigere le sedute, punto e basta, no? Questo è il presidente del Senato, ma chi se ne frega? Gli italiani se ne fottono del presidente del Senato, se ne sbattono del presidente del Senato. È la seconda carica dello sì, Stato, ma se però, ne fottono, non è che il problema è il fare il presidente del Senato, quelli sono tutti macchingegni e sono tutte alchimie politiche di cui gli italiani, le persone se ne sbattono, bisogna togliere privilegi da questo punto di vista, cancellare tutte queste cose qui, cancellare i privilegi di questi qua, soldi in più, via, vanno tolti. Umberto, provincia di Alessandria, abbiamo dato. Vincenzo dalla provincia di Salerno. Vincenzo? Non c'è. Alberto da Reggio Emilia. Buonasera. Dica. Ma io penso che il Paese abbia bisogno di un segnale fortissimo, che è quello praticamente di togliere il finanziamento pubblico dei partiti. Io sono d'accordo con lei. Però anche questo. E dopo come viene gestito? La mia paura in Italia, dove il DOUBES... sempre a pensare al dopo, sempre a pensare a quello che può succedere, così non si fa mai un cazzo, sempre a pensare e se togliamo il finanziamento pubblico ai partiti cosa succede? Non succede niente. La politica è costretta a fare TikTok, mi date i soldi, mi date i soldi, punto. L'importante è questo, che quando qualcuno ricoprirà certi ruoli e farà certe scelte. Ma sarà meglio dello schifo che abbiamo adesso, dove i partiti assumono la gente, dove i partiti questo, si trasformano in cacciatori. Siamo d'accordissimo. E allora, appunto, no? Che il Movimento 5 Stelle abbia avuto successo perché certi personaggi. personaggi che ci hanno guidato erano loro il problema del paese. Non è, era un problema di persone. Vabbè, ho capito. Però se noi tiriamo via certe regole, sì. Secondo me corriamo il rischio. Ma queste regole, queste regole sono state fatte per mettercelo in quel posto, perché non c'era più, gli italiani avevano deciso di cancellare il finanziamento pubblico, cancellarlo. L'hanno deciso gli italiani. Fattissimo. Questi invece si sono intascati una marea di soldi, perché i conti sono lì, una marea di soldi in tutti questi anni, per non combinare nulla, una marea di soldi, una marea. Ma lei non dà fastidio che si sono fregati i suoi soldi per non fare nulla? E allora? Pago più di 30.000 euro di tasse all'anno, quindi si figuri se mi do fastidio. No, il vero problema secondo me è questo: quanto ci costeranno dopo certi lavori, certi carichi, certi appalti che per forza di cose rimangono? Ma che vuol dire? Che cosa ci costeranno certi appalti, certi lavori? Non ho capito nulla. Che cosa vuol dire? Non capisco nulla. Non capisco. Che significa certi appalti? Se io ho una certa attività, voglio avere un incarico, vado da chi comanda e dice benissimo, non è più finanziamento, ci possiamo mettere d'accordo. Ma quella è la trasparenza delle lobby, avviene anche adesso col finanziamento pubblico, non si preoccupi, avviene anche adesso, avviene anche adesso. Lei crede proprio alle favole. Ma che favole? Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera. Allora io... Sì. Dico che sono giorni che sto godendo. Sì. Ho votato Movimento 5 Stelle, sì. Dopo anni che ho votato sempre a perché destra. Sta godendo? Sto godendo perché sento tutti che si chiedono, invece loro sono dritti per la loro strada, non parlano perché non devono parlare il politichese, devono fare e basta. E anzi, io sarei stato contento che ci fosse stata la marcia, perché tanto io a Roma e li avrei proprio accompagnati tutti quanti in Parlamento. Ma in che senso? Scusi, non ho capito. Nel senso che ma di cosa è contento? Non è successo nulla per adesso. Per adesso non è successo niente. È questo. È la rottura. È la rottura. Ma ho capito. Ma la rottura. Per adesso non si è rotto niente. Vediamoli sui fatti. E vediamoli adesso. Domani si inaugura il Parlamento. Cioè Gianluca da Pistoia. Buonasera. Gianluca. Buonasera. Senta, riguardo il signore Bersaniano di prima, non capisco perché sia così stupito, perché a me sembra sempre di più una persona senza polso, che non riesca assolutamente a gestire nel proprio partito, nelle proprie idee. E il discorso delle cariche più alte, magari se ci fosse un pochino meno voglia di parassitare, potrebbero semplicemente i nostri signori parlamentari darsi il cambio e per ogni esigenza fare a turno per ricoprire Bravo. La carica potrebbe essere un'idea, fare a turno così, ecco. Fare a turno, non cariche che durano tutta la legislatura, fare a turno il presidente della Camera e del Senato deve essere un burocrate che gestisce il traffico, un burocrate che gestisce il traffico. Ma devi saperlo fare, tanto per te fare, è tutto no? Immobile, dai, per te è tutto immobile, tutto deve rimanere ci sono dei riti democratici, ma che vuol dire riti democratici? Ma in altri paesi non hanno tutta questa importanza, deve essere un burocrate senza uffici supplementari, senza 40.000 persone al suo servizio, senza soldi in più, un burocrate. A domani 18:30. Caro Cruciani, devo dire che mi sto un poco affezionando a questo nostro rapporto radiofonico. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Grazie a voi, saluti. Radio 24, la passione si sente.